Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Lavoro, viaggio di ritorno Roma Bassano del Grappa, ho obbligato la mia collega ad ascoltare 3 podcast della Zanzara. Lisa, cosa ne pensi? No, è abbastanza divertente per certi versi, però secondo me la maggior parte dei vostri ascoltatori sono malati di mente e dovreste fornire gli accessi ai loro contatti, boh, alla polizia, degli psichiatri molto bravi, perché veramente sono inquietanti. Ma sarà inquietante te, sarà inquietante. Questa è malata, Cioè, questa è pazza. Sono inquietanti, è vero, è vero. sapevo che avessi dato ragione a questa ascoltatrice. Ma voglio dire, ma no, guarda che se chiedi, io non dico a Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore di tutto il gruppo. Non dico, se lo dite da tutto Squizzi, presidente ancora per poco da Confindustria. Non dico, però se chiedi anche a una persona di normale, gli dici scusi, allora, amico mio, come sono secondo lei gli ascoltatori della Zanzara? Io credo che 90.9% ti dicono che sono dei malati mentali, ma è anche il bello di questo bordello qua, voglio dire, no? Quindi su, dai. Tu non sei dire completamente che gente, pazzo. Hai gente normale quella. Ma sei completamente fuori di testa. C'è questa che chiama è gente normale. Se questa per te è la normalità, amico mio, chiudo la trasmissione qua, 18.37, andatene a fare in culo. Allora, molti mi chiedono di commentare l'omicidio di quel ragazzo di 23 anni da parte di due rincoglioniti cocainomani. Beh, rincoglioniti, scriminali, diciamo. Criminali, sì, criminali. Direi cosa c'è da commentare? Non capisco. Commenta, ma no, niente, questa roba. Qua. Ma basta. Cosa c'è da commentare quando uno dice, poi bisogna vedere, perché naturalmente c'è poi la strategia difensiva, no? E quando uno dice certe frasi, cioè le frasi, no? La frase per cui che uno di questi qua ha detto. Per vedere che effetto fa, l'abbiamo ammazzato per vedere che effetto fa. Cosa devi commentare? Che c'è da commentare quando due pigliano accoltellati e ammartellati uno di 23 anni per vedere che effetto fa, pieni di cocaina? Ma che bisogna commentare? Cosa? Contro la droga? Non mi farete fare i pipponi contro la droga, no? Sotto l'effetto della cocaina? No, non li farò i pipponi contro la droga, perché uno ammazza pure senza la cocaina. I wanna lay it at your feet, 'cause girl, I was made for you, girl, you. Oh, intanto Roma, in attesa delle elezioni, ieri ci sono state le primarie del centro-sinistra, e in attesa dell'assegnazione delle Olimpiadi ha vinto i giochi gay. Ma sembra una vittoria anche quella. I giochi europei gay del 2019. Ora io dico una cosa, no? Che senso ha organizzare i giochi olimpici per gli omosessuali? Chiamiamoli così, anche se non sono i giochi olimpici per gli omosessuali. Cioè, tu ti rendi conto? Se uno vuole il ghetto, allora promuove i giochi olimpici. Non è che i disabili. Scusa, i disabili hanno un problema spesso motorio, no? Problemi motori. Quelle si chiamano paraolimpiadi. Esatto, ci sono dei giochi a parte. Dei giochi a parte, perché. Vabbè, ma ognuno può organizzare. Puoi organizzare, okay, ma che le olimpiadi gay... degli ascoltatori della Zanzara, di questi quattro mentecatti, che l'unica roba che sanno fare è l'unica olimpiade che sanno fare è comporre l'800 24 00 24. Mauro D'Amato, ma che cazzo di competenze ha, se non quello col ditino di stare attaccato al telefono di questa trasmissione? Guarda, nessuna. Che te lo riscateno. Dai, tutta gente mentecatti, dai. Allora io dico una cosa, perché organizzare i giochi per i gay. Ma perché? Perché... cioè, i gay possono partecipare tranquillamente alle Olimpiadi, no? Alle Olimpiadi quelle istituzionali. Cioè, oppure se uno ha dei problemi, no? Partecipa alle Paralimpiadi, cioè ha delle disabilità, partecipa alle Paralimpiadi anche se è omosessuale. Che, perché bisogna organizzare i giochi per gli omosessuali? Mi fa diventare pazzo questa cosa. Appena ho letto questa notizia ho detto: ma non è possibile, cioè, che esistano i giochi per i gay, gli Eurogames a Roma. Bah. Allora, Renzi di andare in guerra in Libia, abbiamo capito, lo avevamo già capito da qualche giorno, non ha alcuna intenzione. Evidentemente legge i sondaggi, gli italiani sono storicamente contro la guerra. E c'è un piccolo caso perché è andato dalla D'Urso a parlarne, no? Cioè, prima del Parlamento, prima di andare a riferire alle Camere, va dalla D'Urso ad annunciare che lui i soldati in Libia non ce li manda. Vi devo dire la verità? Cioè, devo essere interessato, appassionato a questa polemica su Renzi prima dalla D'Urso e poi alle Camere? No, non lo sono. Vi devo fare l'indignato per forza? Che scandalo, prima dalla D'Urso? Sì, certo, in teoria. No, uno dovrebbe andare alle Camere. No, ma chi se ne frega? È quel che ha detto più che altro, più che dove sta. Con me, presidente, detto. Nessuna invasione della Libia. Vabbè, d'altra parte, qualche settimana fa, al contrario, il ministro della difesa, la signora Pinotti, aveva più o meno detto che avremmo mandato 5.000 uomini. Dunque, ragazzi, un po' di comunicazione. Sì, comunque, sì, però ci sta la polemica, ci sta e come, perché su un cioè, tema dalla così delicato. Cioè, prima dalla D'Urso, tu dici... Ma non mi interessa dalla D'Urso, può essere anche chi l'ha visto, non è il tema della D'Urso, può essere anche... Anche quel porta che a vuoi. Porta, dici, anche ma porta a porta. Assolutamente, è una questione però... Cioè, tu dici, però, deve di... andare dalla D'Urso e non parlare di Libia, non parlare non della Libia. Ma sì, sarebbe... E che ne so, devi parlare di che? Più, delle unghie smaltate. Delle unghie smaltate della D'Urso, di che sì, cosa? Sì, anche di quello che dei magari... Dei capelli è, della D'Urso, è dei selfie. Magari quello di più di sua competenza, ecco appunto, selfie, esatto, tutte quelle cose cioè, lì. Cioè tu dici, va dalla D'Urso e deve parlare, che ne so, di cinema, di teatro. Di quello di cui è sua competenza, di cinema, non lo so teatro, di quale sia competenza. Sì, può di, essere che ne so, di palestra. Di palestra, bravo, no, ma di anche di carità. Di che cosa? Di job set, è chiaro di tutto che vuole. È chiaro che va lì. Sì, ma su un tema così delicato non deve parlare dalla D'Urso. Ma non è che non deve, garbo istituzionale, parola che a te non piace, garbo istituzionale. Sarebbe meglio. Che... Vabbè, sentiamo quello che ha detto. In questo è come Berlusconi, è perfettamente omologo a Berlusconi. Vabbè, anche no, questa... ma perché è una constatazione, vai, omologo vai. A Berlusconi. A te non piace, non piace. Ma non... No, no, no, no. In Libia l'ipotesi di 5.000 uomini non c'è, punto. Ok. In Libia l'Italia con i 5.000 uomini a fare l'invasione della Libia, con me presidente non ci va. Però ragazzi, a proposito di candidati a Roma, c'è il signor Storace, come sapete è candidato del suo partito in realtà, e solo del suo partito, che ha detto una puttanata ieri, ma una puttanata, magari alcuni di voi condivideranno pure, ma una roba proprio inaudita, signor Storace, che parla dei Marò. Ora, diciamo la verità, diciamola tutta, caro Parenzo, perché è inutile essere ipocriti. Dei Marò agli italiani non fotte nulla. No, niente. Questo no, non nulla, credo. Questo nulla, non è vero. Nulla. No, scusa, abbi pazienza. Uno, uno è in Italia. Uno è in Italia. Signor La Torre è in Italia. Dunque, nulla questio, diciamo. No, è in Italia, certo, essere stato in galera, che non è in galera in realtà, è in l'altro è in ambasciata, all'ambasciata italiana, non è in galera dietro le in galera. E sta, mi dicono, sta abbastanza bene lì in quella location, diciamo, nell'ambasciata italiana in India, nell'ambasciata, sta abbastanza bene in quella location, signor Girone. Ecco, gli italiani delle sorti dei signori Marò non fotte nulla. Sì, certo, se uno poi ti chiede torni in Italia, è giusto che torni in Italia, la maggior parte delle persone dicono sì, gli indiani sono stronzi, eccetera, eccetera. Però poi della sorte di Marò non gliene frega niente. Zio Storace è andato a parlare di fronte a una platea e ha detto che addirittura se fosse sindaco di Roma chiuderebbe i ristoranti indiani. Chiudere i ristoranti indiani! Che primo sono buonissimi. Una buttata. No, primi sono buonissimi. Ma lo dice per la dignità nazionale, sì, sai questa certo, cosa, no? La vabbè, dignità vabbè, nazionale. Ma è un simpatico matacchione, simpatico. No, ma per carità, va benissimo. Per fare campagna elettorale, per far parlare di sé. Per ma far appunto, parlare di sé. Quello, siccome dire, i titoli qualche volta scherzeggiano, uno dice faccio una bella cosa sui Marò. Una buttata. Chiudere i ristoranti. Dopodiché è inapplicabile anche nel caso in cui fosse eletto sindaco di Roma. Non puoi chiudere i ristoranti. Non è che puoi chiudere i ristoranti indiani. Che cazzo fai? Cioè, soffriamo e coviamo rabbia, noi capitali d'Italia, anche per Massimiliano e Salvatore, ricattati dall'India. Se sarò eletto sindaco di Roma, convocherò in Campidoglio l'ambasciatore dell'India e gli dirò che se entro 10 giorni non tornano in Italia, chiudiamo tutti i ristoranti indiani in città. perché al ricatto si risponde con la fierezza e con la dignità. Ma la gente che applaude, cioè, sì, quelli che applaudono sono i ristoratori cinesi, che così si vedono eliminata la concorrenza degli indiani, quelli italiani, oppure no, semplicemente cinesi, non credo cinesi. Che i cinesi votino per Storace, cinesi di Storace, no, ma non cinesi credo. Sono più cinesi, sono più a destra di Storace, sì, quello può essere. Cinesi sono più a destra, sì, di d'accordo. Storace, insomma, l'applauso è ancora più ridicolo, una cosa inapplicabile, è come il cinema, diciamo, no, è come una cosa teatrale, uno sta là, dice chiudiamo i ristoranti indiani. Una volta da noi, non mi ricordo in che sede, il tuo amico Pennacchi disse una cazzata del genere. Grande, anche lui, Pennacchione. Rapire gli imprenditori indiani, te lo ricordi? Sì, rapire gli imprenditori simile, indiani, ma, insomma, signor sì. Pennacchi, rapire, sì, ottimo, Pennacchi. Gli imprenditori indiani, premio strega, ricordi i premi letterari non si criticano mai. Vai, il premio adesso strega, non esagerare adesso, non no, si no, criticano no. Dai su, un cioè, grande scrittore italiano, sì, vabbè, patrimonio d'accordo. Dell'umanità, ragazzi, comunque vi do un consiglio, voi che siete in macchina, siete tantissimi a quest'ora che seguite la Zanzara 18:45, mi raccomando, non mettetevi mai a litigare in macchina. Se vi venisse in mente ogni tanto di litigare in macchina, andatevi a vedere su internet, sul web, quello che è successo a un poveraccio con due figli a bordo, che si è messo a litigare, non so con chi, magari hanno fatto dei gestacci con un tizio che era per caso un pregiudicato di 42 anni. Questo qua l'ha rincorso, è un filmato impressionante, perché a me è successo una volta, dopo te lo racconto. Uno lo ha rincorso come un pazzo, lo ha tamponato due volte, poi lo ha praticamente lo ha scaraventato lì. Poi questo tizio è stato arrestato e si è scoperto che era un pregiudicato di 42 anni. Due figli a bordo, non fate mai nessun gestaccio, non fate mai casino, anche se qualcuno vi rompe i coglioni, che vi sorpassa male, state zitti, andate avanti. Traffico veicolare. La Zanzara. Cruciani, sei un figlio del demonio. La Reggia di Caserta, ragazzi, oltre ai sindacati, adesso fra poco cercheremo di pizzicare uno di questi sindacalisti, no? Perché la cosa ci era rimasta un po' appesa da venerdì, sindacalisti che hanno criticato il direttore della Reggia di Caserta, che resta a lavorare oltre l'orario di lavoro perché non comunica dunque le questioni di sicurezza, eccetera eccetera, quel vergognoso comunicato che è stato fatto, quella lettera al ministero. Però si è scoperto una cosa che in realtà non era nemmeno troppo segreta. Beh, che nella Reggia di Caserta vivono diverse famiglie, i ex custodi, probabilmente gente raccomandata, non riesco a capire, 12 famiglie che pagano affitti tra i 5 e i 15 euro dentro la Reggia di Caserta, usufruendo. Ma, non è male, Ma no, ma ti rendi conto? No, non è un brutto posto, cioè, l'Italia, l'Italia, il sud in particolare, il sud. Cioè, famiglie che stanno dentro senza alcun titolo, pagando non so come dai 5 ai 15 euro al mese dentro la Reggia di Caserta. Sì, pazzesco. Magari in situazioni di fatiscenza, non lo so, comunque non pagano un cazzo, luce, eccetera eccetera, e sono parenti o amici non di ex rom. Custodi. No, non sembrano rom, per non verificare. Sono rom. Vabbè, adesso non è che tutto sui rom, dai. Allora, uno di questi sindacalisti che ha scritto la lettera al ministero per protestare contro il direttore stacanovista si chiama Donia. Io proverei a fare una telefonatina a questo signor Donia, che tra l'altro è stato sospeso, no? È stato sospeso dal sindacato. Pronto? Sì, Donia? Sì, sono io. Chi è che parla? Salve, buonasera, qui Radio 24. La disturbo? No, non mi disturba. No, volevo sentirla perché per tutto quello che è venuto giù in questi giorni. Giusto per... Il caso è chiuso. Ma perché è chiuso? Scusi, mi sembra apertissimo. Lei è stato pure sospeso? È chiuso proprio per quello, sono stato un'ingiustizia, quindi il caso è chiuso. Ma secondo lei ingiustamente? Io dovevo chiarire, ho chiarito in tutte le salse. No, ma questo infatti l'ho capito. Il documento è stato diramato da ormai è più pubblico quel documento che la Costituzione. No, certo, ma la cosa che volevo chiederle, ma secondo lei è stato sospeso ingiustamente? No, ma io mi sono addirittura autosospeso. Si è autosospeso, cioè prima della sospensione? La sospensione mi è arrivata, come lei sa, tramite i mass media. Sì. Come sono una persona che non aspira a poltrone, sono una persona per bene, sì, ho deciso di autosospendere. Ma lei non si vergogna per quello che ha scritto? Non commento, perché ormai è un gioco al massacro. No, ma ho capito, ma si rende conto che lei... Non commento, mi dispiace, ma non commento. Ma quella frase lì sul direttore, sulla permanenza del direttore, la riscriverebbe? Forse non ha capito. L'italiano è italiano. No, ma io ho capito, io faccio il mio mestiere. L'ho firmato e quando firmo è come se ci stessi io sopra scritto alla firma. Dunque lei lo rifarebbe, lo riscriverebbe così com'è? Quindi non le rilascio a nessuna. No, ho capito, però. Chiami Gesù Mai Renzi, che Renzi sa tutto, le può rispondere. No, ma per carità. No, ha ragione, su questo ha ragione, sono Parenzo, salve. Su questo ha ragione invece, perché hanno processato questo sindacalista senza sapere, io dico, un cazzo della situazione. Quindi io infatti volevo esprimere la mia solidarietà. Allora, ne ho avute di peggio addosso, quindi non mi tange. Lei, per esempio, ha mai lavorato oltre l'orario? Ha voglia. Va bene, arrivederci, grazie, arrivederci. Cioè, tu sei solidale nei confronti di questi qua, della Reggia di Caserta? Non ho capito. Beh, bene. Adesso che si è scoperta bene la storia, francamente sì. Perché, cioè, tu dici, hanno chiesto solo chiarimenti sulla sicurezza del direttore. Perché quando tu sì, non era un fannullone, che quando Renzi sente la parola sindacato, si scatena a prescindere come un toro quando vede il rosso, no? E quindi, siccome comunque il sindacato ha delle colpe gravissime in questo paese, ogni cosa che riguarda il sindacato è dai al sindacato. Alla fine questi qua hanno chiesto solo chiarimenti. Non è che non voleva far lavorare il proprio dirigente. Ha detto che uno deve avvertire. Beh, deve avvertire perché magari sono problemi di sicurezza, c'è il personale da avvisare. Non è che uno, se io rimango qui al Sole 24 Ore, Radio 24, oltre l'orario di lavoro, cosa che peraltro non capita mai. Ecco, appunto. Perché io alle 20:50 qua scappi. Scappo già prima, già al minuto prima scappo. Io metto già via tutte le cose. Tu mentalmente scappi. Però, già da. Già adesso, 18:52, già finito. Esatto, sì. Ma qualora capitasse, devo avvisare Sebastiano Barisoni, Roberto Napoletano, il capo dell'amministrazione, il capo del sindacato, cioè, il capo del CDR. Anche il direttore della Reggia di Caserta deve avvertire. Sì. Beh, certo, tranne Napoletano, cioè Roberto. Vabbè, ragazzi, Napoletano. Ma non si può scrivere. Ma scusami, cioè, ragazzi, se Napoletano permane al lavoro oltre il suo orario. Vabbè, ma che cazzo c'entra? Ma tu non puoi sempre scrivere. Non perché può. Napoletano torna a casa alle 4 del mattino. Ma non, lo dire. Ma non puoi. Cioè, è uno dei più grandi lavoratori. Fate prego, è un grande lavoratore. Cioè, siccome è uno dei più grandi lavoratori italiani. Il contrario di fate presto. Il contrario di fate presto. Non fate presto, fate tardi, dice lui. Fate tardi. Rimane faccio tardi. Fino alle 4 del mattino. Lui rimane, lo voglio dire agli amici imprenditori all'ascolto, e non sia piaggeria questa. Lui rimane. Dillo al nuovo presidente di Confindustria. Esatto. Fino alle 4 del mattino. Ed è il primo ad arrivare la mattina alle 7. Un leccaculo. È così. Che leccaculo. È così. Barisoni uguale. Faccio tardi. Regionale rotative. Nelle rotative. Capì? E quindi è così. Quindi va avvisato il sindaco. Va bene, Filippo da Modena. Vai. Filippo da Modena. No, ma non mi interessa gente. Ecco, Filippo da Modena. Non rompere i coglioni, dai. Filippo da Modena, vediamo cosa dice Filippo da Modena. Vediamo l'intellettuale Filippo da Modena cosa dice. Vai. Ciao Curciani, buonasera. Dimmi. Sentiamolo, miserabile. Ciao Parenzo. Ascolta, io di solito Parenzo lo sopporto abbastanza tutte le sere, sì. Cioè, è abbastanza normale. Però stasera quando ho detto gli ascoltatori sono degli sfigati di fuori testa. No, non tutti, quelli che chiamano. Oh, quelli che chiamano. Filippo, vai all'assalto, vai all'assalto. Ma stai zitto, cosa stai dicendo? Credi quelli che chiamano. Un po' spocchioso delle sere, però. In normalità sei abbastanza normale, però stasera hai superato ogni limite, secondo me. Oh no. Vai Filippo, Franco, provincia di Salerno, vai Franco. Buonasera Cruciani. Dimmi. Un piacere. Senti, io sono un dipendente, un operaio. Ho fatto l'imprenditore, oggi attualmente faccio l'operaio. Sì. Sono stato sempre contro questa classe sindacale. Allora? Perché per me sono dei fannulloni, sono dei privilegiati. Sono della gentaglia più che altro. Ma dipende chi naturalmente, Franco. Tutti i sindacati. Ma diciamo che secondo me, io non arrivo a questi estremi, secondo me sono una delle grandi rovine dell'Italia. Ecco, diciamo. Ma. Uno dei allora motivi io del disastro italiano sono certamente i sindacati. Ti voglio precisare una cosa. Vi pare normale, al di là di tutto, vi pare normale, io la penso diversamente da Parenzo su questo, che uno fa un comunicato, già il fatto che i sindacati facciano un comunicato al ministero come se fossero dei soviet della Reggia di Caserta, ma uno fa un comunicato come se dovessero sovrintendere lì, no, alla Reggia di Caserta, controlliamo noi quant'uno lavora o quanto non lavora. Vi pare normale che uno fa un comunicato, una lettera in cui scrive che questo qua si trattiene oltre, ma che cazzo te ne frega a te? Ma saranno poi, cioè saranno altri a decidere sulla sicurezza, chi chiude il cancello, chi ha le chiavi. Ma non solo, a proposito, vuol dire che poi quelli sono straordinari. A proposito, domanda, ma signor Cosentino, ha ancora le chiavi della Reggia di Caserta? A dopo. Parenzo, ma quella sera di 9 mesi fa, prima di arrivare a casa, hai dato un colpo di telefono a tua moglie? Oh! mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data, ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica, Palazzina Appiani, sabato 12 marzo, ore 15, ciao! In collaborazione con Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. La Zanzara. Non puoi capire, sabato sera andiamo a prendere il gelato, cosa ci sono? I gusti vegani con latte di riso, che schifo. Crociani, ma i pidocchi, i vegani, cosa fanno? Li nutrono? Tempo fa, tra l'altro, è uscita una notizia di un signore in Inghilterra che si teneva i pidocchi, hanno fatto vedere pure le foto, perché non li voleva uccidere. Secondo me era un mezzo falso questa notizia, comunque diamola per buona. Ragazzi, il mondo sta cambiando, eh? Cioè, che siamo vicini alla fine, che stiamo per arrivare, lo so Parenzo, per, quando a qualcuno nasce il terzo figlio dire che siamo vicini alla fine, sì, del, no, mondo, appunto, è un po' brutto, no, capisco, po' che brutto, è un po' brutto, però ragazzi ci sono tutti gli indizi, tutti gli indizi, indizi? Ma l'altro giorno ho visto un servizio su un giornale durante il weekend, un giornale locale, dove c'erano due che hanno portato a fare le damigelle due cani, due labrador. Hanno portato due labrador, sì, però, dire, ma anche tu, a weekend, fare le ma... damigelle. No, ma ho sfogliato per caso. Ho sfogliato per caso un giornale locale. Ho detto: due portavano al matrimonio le come damigelle due labrador. Vabbè, gente, ma tutti infiocchettati, tutti infiocchettati i cani. Dai, su. Ma come cazzo si fa? Cioè, io avrò le mie stranezze, perché così, appunto, direi, appunto. Io avrò le mie appunto. Però, dai. Allora, già sentito alla Zanzara, anche l'amico Montesano ha perso completamente la Trebisonda. Io lo dico con affetto, l'abbraccio, amico Montesano, per carità, siamo laziali tutti e due, numero uno assoluto per tante cose. Però ragazzi, su, cioè, la nuova vita di Montesano è tutta dipinta in queste frasi qua: poveri maiali, mangiamo l'erba, non le mucche, la tortura delle galline, i pesci soffrono, non abbiamo i denti adatti alla carne. Ma ragazzi, su, ma chi l'ha convinto di questa cosa qua? Henry, e namo, dai. Tu difendi i maiali. Ma i poveri maialini. Ma lo sai, Borelli, questi sono animali intelligentissimi. Vero. E alle volte c'è una certa crudeltà nella macellazione. Insomma, a me spiace. No, alle volte. Poi, comunque, guarda, ci sono dei würstel di verdure vegani che sono buonissimi. Sono d'accordo. E te pareva che la Celentano non era d'accordo? Vabbè. Signor Celentano, sostengono signor Celentano Vari che noi siamo grandi sponsor della loro trasmissione, che è vero naturalmente, sì, perché sì, per carità, ognuno fa il cazzo che vuole, eccetera eccetera, che però qualcosa non funzioni, come dire, dal punto di vista mentale, dal punto di vista così. No, ma perché? Ma anzi, sono le... ragazzi, ma uno che, dai ragazzi, su, mangiamo l'erba non le mucche. Montesano, sentiamo Montesano, mangiamo l'erba non le mucche. L'uomo mangia le mucche, insomma, i vitelli, che si cibano di erba. Mangiamo direttamente l'erba. Esatto. Mangiamo direttamente l'erba, esatto. Sì, non è male. Non mangio le uova perché bisogna torturare le galline. Montesano, c'è sempre più bisogno di questo libro, c'è sempre più bisogno di questo libro, Parenzo. Nazi vegani, sento sempre più il bisogno per arrestare il declino del mondo. Il declino. Non mangio le uova, quindi non bisogna torturare le galline, no, perché debbano produrre per forza. E poi la sofferenza dei pesci, pure questa è buona, eh? La sofferenza dei pesci. Il pesce invece, per un motivo etico, io sono sempre stato amante dei pesci. Quando mi dicevano vieni a pesca, dico, mi faceva un'impressione anche a me vedere quel pesce infilzato con l'amo. I pesci non si lamentano, ma soffrono. Sì. Certo. Sono offrono, li prendono, li fanno morire asfissiati. Muoiono i pesci perché li mangiamo. Perché beh, li sì, mangiamo questo, sì, perché poi si riproducono i pesci, capito? Cioè non sono, non si estinguono, si riproducono i pesci. Ce ne sono sempre di più. Non è che, non è che finiscono a un certo punto, no? Non è che finiscono, ce ne sono. Cioè le orate che vengono allevate, la maggior parte, non è che poi finiscono le orate, no. Non finiscono le orate. Le spigole non finiscono. Probabilmente le balene potrebbero estinguersi, no? Le balene. E allora sulle balene si può discutere, diciamo. No, sì, è giusto tutelarle quelle. Anche se la carne di balena dicono non sia male, eh. Anche quella vuoi mangiarti? La carne di balena è ottima. Dove andiamo? Andiamo Alfredo da Milano, 800 24 00 24, 393 71 71 701, sempre per i vostri WhatsApp. Vai. Li odio quei WhatsApp. Ma che li odio? Che li odio. Vai, vai, dimmi. Niente, io ho sentito Parenzo una mezz'oretta fa, no? Quando le fai tutti, cioè riesci anche a difendere i sindacati, che secondo me è una categoria che su 10 colpe che ha in Italia, ci sono in Italia 8 sono loro, un vero e proprio contropotere. Cioè lui riesce a dar ragione per una questione di sicurezza, ma quale per ragione? Cui il direttore di, della regia di Caserta dovrebbe firmare il permessino. Posso fare un'ora in più questa sera? E magari lo deve firmare due giorni prima. Sì, e magari ci sono degli degli ostacoli, perché dice no, però un'ora no, perché sennò deve rimanere quell'altro a chiudere la porta. Parenzo, incredibile. No, incredibile. Non è incredibile, no, è incredibile la sua mancanza di intelligenza, ma questo ormai... Sì, sì, sicuramente. Quelli che sicuramente chiamano... io non raggiungo le tue punte di intelligenza. Ma non è questione, basta ragionare. Magari adesso si scopre che questa persona ha semplicemente posto un problema di straordinari, di persone che lavorano dentro la reggia. Tu sei la ragione dell'Italia, sei. Tu ci illumini. Mamma mia, come si chiama questo? Chi è questo? Capisci? Tu sei come si chiama Voltaire. Questo che parla? Come si chiama? Alfredo, adesso un minimo Alfredo un minimo di rispetto, tienilo. Sì, Alfredo. Capito? Da Milano, va bene, va. Capito? Bene. Chiama a casa quando torni adesso, telefono. Aspetta, senti. Maria piena di grazia, il Signore è con te. Cos'è sta roba? Sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ma cos'è? Hai capito? Santa adesso Maria, quando madre di Dio, prega per noi. Ma cos'è sta roba? La prossima volta che lì dico con qualcuno ti metto questa preghiera. Su di me non è che ha grande Antonio effetto, perché da io sono Salerno, di un altro, dai, Antonio. Partito, come ho detto tante volte. Antonio. Anche io sono del partito anti-Parenzo, perché sì, ogni tanto Parenzo assomiglia a Klaus Davi all'Arena di Giretti, che dice delle cose totalmente cazzo di cane. Questo come no. Quando una volta l'ho sentito parlare di Scampia a Klaus Davi, che io l'avrei preso, l'avrei messo in mezzo a Scampia. Cosa c'entra Klaus Davi? Un'idea. Ora vorrei chiedere a Parenzo, io sono campano e sono andato molte volte alla reggia di Caserta. Lui quando ci è andato l'ultima volta? Ci sono andato quando ero al liceo, mi pare, benissimo, sicuramente. Ma allora, prima di dire delle cose a cazzo di cane... Ma guardi, lei forse non ha sentito, Caserta, ma... Lei forse non ha capito, difende, ma questo non mi stupisce, però. Ma quelli che lei difende... Ma io non ho difeso nessuno. Avere un'ora straordinario. Senta, pagata. Giovanotto, io non ho difeso nessuno. Beh, quando detto, il sindacato sbaglia, no, sono il primo a dirlo. Ha detto che dovrebbero avere un'ora in più... Dica... No, ma ho detto semplicemente che questo sindacalista che si è poi autosospeso magari non ha fatto la cazzata che tutti hanno evidenziato, perché ha semplicemente posto il problema del personale che si deve che deve permanere all'interno della suddetta struttura, perché superato l'orario ma di dai, lavoro insomma, c'è da tenere aperta la porta, la cosa, solo questo quel ho detto. Ma problema non dovrebbe proprio essere posto, perché alla reggia di Caserta ci vorrebbe un Marchionne che dice... Questo cosa c'entra? Ma questo può essere dipendenti. D'accordo con lei? Bravo, bravo, bravo. Ma questo va bene, ma che c'entra? Questo no, ma scusi, dirci, guardi, questo non c'entra. Posso essere d'accordo anche con lei su questa cosa qui, che bravo, ci vorrebbe non Marchionne, ma un altro. Dai, su uno, non è che il direttore della reggia di Caserta deve ma qualcuno avvertire. Dovrà chiudere quella maledetta porta. Qualcuno vabbè, dovrà ma fare la vigilanza quella lì davanti. Ma quello che chiude la porta per 20 anni non ha fatto un cazzo. Ma non c'entra nulla con la questione allora, dell'allungamento dell'orario di lavoro. Ma questo non capisce. Ma gente che non fa un cazzo. Non capisce. Dovrebbe rompere i coglioni. Non capisce, ma quello non è un era problema. Un pretesto. Quello ecco, era un pretesto. Ecco, tu dici che era un pretesto. Pretesto. Ma certo che era un pretesto. Quindi il sindacato pretesto sbaglia a prescindere. Perfetto. Privilegi. Come fa a non capirlo, Parenzo? Scusa. È un pretesto per guarda che le persone che rimangono là vengono pagate di più perché sono oltre l'orario di lavoro. Quindi è un loro interesse allora, lavorare di più. Durante la permanenza. permanenza di questo signore nell'ultimo anno, senza fare, come dire, il monumento a nessuno, pare che siano aumentati del 70% gli incassi e delle presenze. Bene, del 105% gli incassi. Pare per la presenza costante di questo tizio che evidentemente qualcosa faceva, no? E i sindacati gli rompono i coglioni perché questo qua non avverte. Ma io loro non credo per che sia andata di così. Mi pare di aver capito da quel poco che ho letto che non è andata così, però. Va bene, e magari dai, tra poco si scoprirà che, Antonio, come dico Napoli. Io. Antonio. Buonasera, buonasera. Dimmi, dimmi. Sono ovvio che fessi che fa l'824-0024. Dunque, sono 78. No, anche miserabili, anche miserabili. Sì, dipende, dipende. Il 99% è così, poi c'è una percentuale. Ascolta, riguardo ai sindacati, generalizzo. Ho 68 anni, quando ero ragazzo un operaio con 60.000 lire al mese, sì, portava da solo la famiglia avanti. Ma che c'entra questo, scusa, così? Riusciva, c'è una differenza fino ad oggi, riusciva a comprarsi anche la cinquecentina. Oggi lavorano marito, moglie, prendono in totale 2.200-2.400 euro al mese e non ce la fanno. Vabbè, ma questo non c'entra niente con i sindacati, scusa. Questa grossa lievitazione dei prezzi è dovuta soprattutto ai sindacati. Ma che quale hanno sindacati? chiesto. Però fermati che stai cominciando ad andare su un terreno scivoloso. Cambiate spacciatore a Parenzo. State ascoltando un programma offerto da Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano 15-18 marzo. La Zanzara. Allora, Davide, questa qua è un'applicazione che si chiama Padre Nostro, anzi no, Santo Rosario, no? Sì. Esiste un'applicazione, sì, Santo Rosario, che non so a cosa diavolo serva. A cosa diavolo serva? Per dire rosario, evidentemente. Sì, ma una specie di accompagnatore per il rosario, cioè il Santo Rosario. Senti, ci sono tutte le preghiere straordinarie, aspetta. L'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria Vergine. È straordinario, eh? Ave Maria, piena di grazia, capito, il Signore è con te. Tu sei non ho capito, ma mi vuoi convertire? Non ho capito, qual è il problema tuo? Del tuo seno, Gesù. No, ma non ho capito. Santa Maria, perché mi fai sentire Dio, questo? Io non. Peccatori. Ma io mi occupo di altro, diciamo. Della nostra morte. Vabbè, ognuno fa quel, dice quel che vuole. Zitto un attimo. Sei benedetta tra le donne e benedetto. Vabbè, ma va tutto benissimo, ma non mi cambia Gesù la vita, ma è cosa Maria, di un'altra madre parrocchia. Di Dio, prega. Vabbè, per noi. Sta zitto. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Mi fa impazzire. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ma è amen. Quello che si deve dire, che dovete dire, insomma, che io. Ragazzi, ormai anche la religione è una specie di take away, è una specie no, di. Ma trovo giusto che la tecnica supporti la cioè, fede. Per esempio, bellissimo. Tu lo sai che esiste l'ostia e il vino take away per fare la comunione dove ti pare? Cioè il corpo away e il sangue di Cristo da portare in borsetta per fare ma la comunione ovunque e comunque. Sì, la puoi comprare. A me fa piacere che tu sì, io Christian però Shop, credo, su Christian vabbè, Shop. Puoi comprare l'ostia e il vino take away. Ma chi l'ha inventato è un genio, va benissimo, ma. Mi fa impazzire questa voce, sono diventato pazzo per questa voce, sono diventato pazzo di questa voce. Tu sei preso dal diavolo, secondo me. No, sono pazzo di questa voce qua. No, tu qua sei indemoniato. Allora ragazzi, andiamo in provincia di Udine, Emanuele, vai Emanuele. Salve Cruciani, salutarei a Parenzo. Allora, dimmi una cosina sola, sul vecchio camerata Storace, no, che ha detto di chiudere i locali indiani fino a quando non tornano i Marò in Italia. Sì. Allora, partiamo col presupposto che mai dei Marò non me ne frega uno stracazzo di niente, prima cosa le do pienamente come a gran parte a degli italiani, amico mio. Come a gran parte, ma detto con tutto io rispetto per le autorità civili, politiche, in questo caso pace, e in questo caso militari. Però non c'entra, cioè io statisticamente, secondo me, adesso concretamente, al di là dei proclami, magari anche dei sondaggi, messaggi. Cioè, agli italiani non frega nulla, non sanno niente di questa storia, non frega solo. Sì, certo, poi se uno ti chiede: no, ma tu li faresti tornare in Italia? Dicono: sì, beh, certo, per forza, eccetera. Gli indiani sicuramente sono stronzi, questo sicuramente è condiviso da molti italiani. Però poi alla fine uno sta già in Italia, l'altro sta in ambasciata, praticamente in panciolle, diciamo, diciamo. Ma è normale. Non in situazione, no, cioè, disagiata, e va bene, dai, su. Ogni fazione politica in questo paese deve avere i suoi martiri, la destra ha i Marò, la sinistra ha... Ma è sbagliato che Simone, sia così. I tempi, no, eccetera, queste due cose qua. Comunque, a parte questo discorso qua, che sappiamo come va tutto il cerchetto della politica, di tutte queste stronzate che ci sparano, io proponevo al vecchio camerata Storace di mandare i suoi alleati col FET, no? Magari con qualche bel manganello, e invece di chiudere i ristoranti indiani, sì, di fare degli belli stencil, no, di Shiva, e dipingerli, no, sulle pareti come facevano i suoi nonni con le vabbè, adesso con le non esageriamo, dai, eccetera, su, no? Non esageriamo. E poi un'altra cosa, l'ultima cosa, se tanto mi dà tanto, se dobbiamo chiudere i ristoranti indiani, no, sì, per rimarò, sì. Allora, io vorrei chiudere tutte le chiese fino a quando non vengono condannati tutti i preti che si sono inculati i giovani italici liberi. Questo è buono, questo è buono. Culo Storace, ma per favore. Questa è buona, Emanuele, questa è buona, nel senso, è buono il paragone che hai fatto, nel senso che se uno deve chiudere tutti i ristoranti indiani, allora chiudiamo anche le chiese per pedofilia. Ma io sarà meglio, sono, no, anche d'accordo su questo. Condannare delle persone che si sono inculati dei fanciulli invece, vabbè, di adesso. Due che cazzo erano col fucile in mano e hanno sparato, se hanno sparato, vabbè, dovevano essere processati all'AIA perché erano in mari internazionali, tutto quello che vuole. Va bene, Emanuele, ma grazie. Due cose. Ciao, grazie. E qualcuno mi dice che in realtà la voce che abbiamo ascoltato prima di quell'applicazione è una voce tipo Tom Tom, in realtà in versione God God. Antonio da Napoli. Immagina di sostituire la voce di quella, ma io con voglio quella di Borghezio, ad esempio. No, voglio sostituire adesso in alcuni momenti la voce delle preghiere dette in versione Tom Tom, come suggerisce l'amico Bagatta, voglio sostituirla ai rientri ogni tanto, farei una come dire, una canzone, una preghiera in, come si può dire, in 3D, quasi una preghiera in 3D, sì, una preghiera moderna, no, con questa voce così, tanto per sputtanare ancora un po' la religione, che ci frega. Antonio da Napoli, dai. Buonasera Parenzo Lecchino. Ma che c'è preso Parenzo Lecchino, mi saluti così. Tutti a casa. Cruciani, ma stasera ci sarà Tiki Taka? Perché lo guardo solo perché ci siete. Stasera sarò presente, amico mio, sarò presente. È un grande. Allora, io sono a difesa del sindacato. Sarò l'unico, sei l'unico di Napoli che dice che guarda Tiki Taka perché ci sono io. Cioè, non ho... Però va bene, Antonio. Sì, vai. Sì, anche perché Auriemma avete a volte disprezzi, diciamo. Va bene, allora? Sono a difesa dei sindacati, diciamo. Devi fare la difesa dei sindacati, e perché? Pronto? Sì, amico mio, perché devi fare la difesa dei sindacati? Vabbè, ce la rivedeci. Matteo da Pescara, vai. Se neanche telefonare questo qui. Matteo Ciao, Pescara, Giuseppe. Vai, dimmi. Pronto? Dimmi. Allora, io ascolto la Zanzara da 2 anni, non ho mai chiamato. Stasera ho sentito sua banalità David Parenzo, sì, che per l'ennesima volta difendeva i sindacati, faceva... Non ho difeso i sindacati. Chi è questo? Una cosa, cazzo, David. Chi è questo? Chi è che parla? Come si chiama questo? Matteo da Pescara. Matteo da Pescara deve andare dall'ottorino, allora, laringoiatra, e sturarsi gli orecchi dal cerume giallo. Lascialo parlare. Il discorso è semplice, non devi fare distinguo. Semplicemente in Italia ci sono da un lato gli ipergarantiti, che per essere cacciati a calci in culo devono uccidere qualcuno, e forse nemmeno vengono cacciati. Ecco, bravo. Dall'altro lato ci sono gli sfigati, quelli tipo me che ho 29 anni, ho la partita IVA da 9 anni, pago 20.000 euro all'anno tra tasse e contributi. Comunque Parenzo appartiene alla tua parrocchia da questo punto di vista. Esatto, ma Parenzo appartiene alla mia parrocchia, ma non capisce e continua a dire le sue banalità e le sue boldrinate, perché lui è la versione maschile della Boldrini. Questa è buona, in quanto questa a banalità. Questa è okay? buona, questa è la versione maschile della Boldrini. Non ho ancora capito, l'ha capito tutta Italia che ci sono gli ipergarantiti e quelli invece che non hanno un cazzo di diritto. E lui invece ma non l'ha capito. C'entra? Non l'ha capito ancora. Ma guarda che questo è stupido forte. Cosa c'entra questo con la questione in oggetto del sindacalista? In oggetto. Adesso parliamo in modo molto formale. Perché quella con la questione è in oggetto. Che ti fa capire come vanno le cose. Discussa. Quello te lo fa capire. Ma cos'è che fa capire? Lei ha capito cosa è successo o no? Beh, un po' sì, sì, è un po' ma no, così alla raffazzonata, alla bene meglio, alla bene meglio, l'ha capita. Non voglio, appunto, non vuole neanche sapere com'è andata, quindi alla bene meglio a prescindere. Ma tu hai capito che ci sono gli ipergarantiti dalla parte dall'altro? Ma che cosa c'entra? Io sono il primo a dire quando il sindacato sbaglia. Che c'entra questo con la vicenda? Hanno fatto una cazzata, dai, su. Nella maggior parte dei casi. Vediamo come si risolve la cosa. Hanno fatto una cazzata, dai. Se, come dico io, dovete chiedere scusa. Cioè, se questo lavoratore sindacalista verrà reintegrato... Ma perché si è autosospeso? Perché si è autosospeso questo signore? Evidentemente, uno di questi qua che hanno scritto il documento, perché? Si è, evidentemente, avendo ricevuto palate di merda... Anche da Renzi, dice. Anche dal Presidente del Consiglio, senza sapere come sono andate le cose. Quindi prescindere, anche Renzi dice il sindacato sbaglia, va rottamato, arrivederci, grazie, avendo ricevuto queste palate di merda ha deciso di autosospendersi e dimostrare la sua buona fede, quindi vedremo che cosa succederà. Vi aspetto al varco. Questo qui come vedremo, si chiama questo? Matteo da Pescara. Matteo da Pescara, ti aspetto. And whatever comes our way. Leggo da qualche parte però che c'è ancora vita, ragazzi, c'è ancora vita, perché uno chef rinomato, credo Bottura, signor Bottura, oggi ha detto che difende la caccia. Difende la caccia come tradizione, basta con questi vegani, difende la caccia a spada tratta, la tradizione della caccia, qui a Milano non so che intervento ha fatto, dunque ancora c'è vita, Crozza, Cracco, Amadori, sentite. Secondo Repubblica, ristorante di Cracco a Milano si sarebbero presentati una quindicina di vegani che lo hanno chiamato assassino perché cucina pennuti. Ora, se passa questa linea, il signor Amadori che cos'è? Goebbels? Effettivamente, se tanto mi dà tanto, se gli animalisti considerano Cracco un assassino, cioè Amadori è veramente... lo diceva anche Montanini, no? Cioè, se fossero coerenti, dovrebbero andare a fare un assalto da Amadori. Cioè, lo dovrebbero ammazzare, sai come non facevano i terroristi? Non dar suggerimenti. Allora, se uno fosse coerente, però, ragazzi, è come Renzi che dice su Vendola, no? Cioè, sono contento, però è sbagliato quello che ha fatto. Ma se è sbagliato quello che ha fatto, come puoi essere contento? Cioè, no, è una contraddizione evidente. Sì, no, questo è chiaro. Cioè, se tu, a parte che essere contenti per Vendola, io, per esempio, non sono contento e dico che ha fatto bene. Esattamente l'opposto. Non sei contento, non cosa sono, vuol dire? No, non sono contento che ha fatto un figlio, chi se ne frega, ha fatto Vendola. Non è che posso essere contento niente, di tutti certo. quelli che fanno i figli, perché altrimenti no, chiaro, dovrei essere contento ogni secondo. Cioè, ogni secondo dovrei essere contento. Sì, magari ci sono persone a te più vicine, ah, altre meno. Discorso. Magari Renzi gli sarà più vicino, gli sarà vicino. Non lo contento so io, per Vendola, però ha sbagliato, io non lo farei. Ma scusate, se pensate che l'utero in affitto è una boiata pazzesca, una cosa criminale, come fai a essere contento di un reato che ha commesso? O di una. Io, è veramente incredibile, guarda. Caro Parenzo, tra un aeroporto e l'altro, Matteo Salvini anche stasera. Ciao, ciao. Ben ritrovati, ma sapete che ci sono ascoltatori insospettati e insospettabili della Zanzara del lunedì, amministratori delegati, consiglieri di amministrazioni, sì, certo. professionisti. Amico mio, vedessi le curve d'ascolto, ma non le tue, perché non possiamo... Le curve. Ma guarda, a proposito di curve, posso ringraziare Maria De Filippi che mi ha ospitato sabato sera? Eccola. Ma che hai fatto? Eccola. L'ho visto. Mancava solo la De Filippi. No, quell'altro dalla D'Urso. A ridere di me stesso perché non sapevo cosa sarebbe successo, però sono riuscito a parlare seppur in un contesto divertente di legge Fornero, di migrazione. Cioè, hai parlato di legge Fornero dalla De Filippi, sei riuscito pure in questa impresa titanica. Ho detto che non avrei mai aperto la busta se dietro la busta ci fosse stata la signora Fornero. Senti una cosa, però le mimose gliele regalerai alla signora Fornero? No, gliele tirerei mimose. Dietro, gliele tirerei ecco, dietro. Eccolo là. Senti una cosa, ma io non ho capito se la D'Urso ha un debole per Renzi e Giletti ha un debole per Salvini, cioè potrebbe essere così, no? La domenica televisiva potrebbe essere anche interpretata in questo modo, no? O sbaglio? Non so, a me... Beh, c'è grande intimità tra i due, tra la D'Urso e Renzi, hai visto, sì? Buon per loro, non sono mica invidioso, non sono mica geloso, quando riesco a parlare di temi concreti lo faccio, non sono spocchioso. Cioè, fa bene Renzi ad andare dalla D'Urso, a parlare anche della Libia, eccetera, eccetera, ha fatto benissimo. Fa benissimo rispetto a certi pippotti televisivi inascoltabili, certo Renzi sarebbe più opportuno che portasse quello che ha fatto. Senti un attimo una cosa, ma se tu fossi presidente del Consiglio, perché Maroni ti candida a guidare il paese, ma Maroni d'altra parte della Lega, tu andresti in guerra in Libia? Guarda, la guerra è una parola grossa e ne parlerei con, cioè, manderesti soldati, soldati li manderesti o no? Soldati di terra. Tu hai sempre detto che bisogna sconfiggere l'ISIS, dunque impopolare, ma se c'è un progetto di ricostruzione per il dopo e se ho dei punti di appoggio in loco, sì. Perché qualcuno ci ha dichiarato guerra, con l'ISIS dialogare è impossibile, quindi avendo dei punti d'appoggio sia in Siria che in Libia e avendo ben chiaro che cosa fare dopo l'intervento militare, io però i soldati ce li manderei. Ma c'è da rimpiangere Gheddafi? Io sì. Sì, io sì, e tante altre persone sì, perché c'era stabilità. Cioè era meglio Gheddafi, come diceva. Beh, rispetto alle 100 tribù che scannano, crocifiggono, tagliano le gole e usano l'immigrazione clandestina come business, sì, grazie ai governi. Meglio il dittatore che noi facciamo fare con la tenda. Meglio un dittatore di 100 dittatori. Assolutamente sì, fuori discussione. Tornando alle cose italiane, ho letto che tu hai un debole per le candidate grilline in due città. Cioè, a Roma ti piace moltissimo questa Raggi che parla sui Rom, dice delle cose molto dure, è un volto nuovo. E anche a Torino ti piace il candidato dei 5 Stelle. Per quello di cui hanno parlato e che ho letto, ho detto che le candidate di Roma e di Torino mi sembra che abbiano le idee più chiare. Beh, hai detto anche qualcosa in più, dice insomma, altro che Bertolaso, questa Raggi per esempio è una che... No, queste sono ricostruzioni giornalistiche all'italiana. Cioè, allora, se tu fossi messo di fronte alla scelta, Raggi o Bertolaso, cosa sceglieresti? No, ragazzi, questo è importante, però è vero. Ci sono i cittadini romani che sabato e domenica... Vabbè, ma scusami, però Matteo, io capisco... Raggi, Bertolaso, Giachetti, facciamola così allora, dai. Se ci fossero Raggi, Bertolaso, voto Bertolaso, ovviamente. No, Raggi, Bertolaso, Giachetti. Vabbè, ma che c'è? Quello è chiaro, Giachetti non lo voterebbe mai. Un paio di maniche, se tu mi dici ci fosse un ballottaggio fra il PD e i 5 Stelle... Chi voti? Io voterei per i 5 Stelle, sicuramente. Quello in tutta Italia, dici? Assolutamente. Beh, sì. Il mio problema è il governo Renzi, che è un governo assolutamente incapace e pericoloso. Ho capito perfettamente, però la questione è molto semplice. La questione dei gazebo della consultazione è veramente, te lo dico sinceramente, capisco il compromesso e tutto, è veramente una buffonata. Cioè non si può far scegliere i romani così ai gazebo. Voi condividete la candidatura di Bertolaso? È una cosa veramente ridicola. Se dicono sì, avanti, se dicono no, si cambia. Senti, Storace ha detto se non ci ridanno i Marò e diventasse sindaco di Roma, cosa abbastanza improbabile, chiude tutti i ristoranti indiani a Roma, il che è una cosa meravigliosa dal punto di vista scenografico, cioè dal punto di vista così teatrale. Sono buoni i ristoranti indiani, sei mai andato tu al ristorante indiano? A Bruxelles vado a mangiare all'indiano. Bravo. Ogni tanto. È una puttanata, dai. È una puttanata una cosa del genere, dai. No, beh, un governo serio sui Marò sarebbe già intervenuto da tempo. Vabbè, d'accordo, adesso... Cioè, cosa faresti? Ponti aerei, blitz? Spero che avrei fatto partecipare a Expo la delegazione indiana. Ormai l'Expo è andata. Cosa faresti di concreto adesso? Che faresti con l'India? Sono degli ambasciatori. Servono degli ambasciatori. Vabbè, ritiriamo l'ambasciatore dall'India? Che facciamo? Non... Assolutamente. Convoco l'ambasciatore indiano e o mi dai una risposta in un quarto d'ora, perché 4 anni senza l'inizio di uno straccio... Oppure te ne vai, cioè cacci l'ambasciatore. Oppure te ne vai. Oppure non sei il benvenuto. Ambasciatore. Primo aereo, via. Ciao. Via l'ambasciatore, cioè, noi siamo passati dai ristoranti indiani a via l'ambasciatore in 5 minuti. No, vabbè. Siamo passati a quello che si può fare. Senti, una cosa, ma con i sindacati di Caserta invece cosa faresti con i sindacalisti là? Quelli che hanno protestato. Non vogliono lavorare troppo? Quelli che dicono che il direttore là della Reggia di Caserta lavora un po' troppo, si trattiene oltre l'orario, diciamo, previsto. Sull'aereo con l'ambasciatore indiano? Sull'aereo con l'ambasciatore indiano, se c'è un posto ci aggiungo Alfano, perché mi hanno appena chiamato dei poliziotti da Catanzaro. Che succede con Alfano? Oggi lunedì 7, su 4 volanti della questura di Catanzaro, che è una città abbastanza difficile da controllare, 3 sono rimaste a piedi. Stiamo parlando di Catanzaro, Italia, Europa, mondo. Senti, ma chi è quel prete? Chi è quel prete che ti manda un messaggio dicendo vai avanti contro l'Islam o contro altre cose? Chi è? Non si può dire, naturalmente. Te lo dico dopo, perché mi fanno spegnere il cellulare. Ha chiesto prete. Ciao. Dove cazzo era? Sempre in volo sto Salvini, oh. Sempre in volo. Va al lavoro, per fortuna. Almeno ci va al Parlamento Europeo. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Claudio, provincia di Ancona. Di Bologna, anzi. Claudio, provincia di Bologna, vai. Comunque Salvini ci rimanderebbe i soldati in Libia, ma tanto non decide, per cui Claudio, provincia di Bologna. Sì, a parte che non sono Claudio della provincia di Bologna, sono Claudio della provincia di Verona. È uguale, dai, su. Ma no, è uguale un cazzo. Poi volevo dire... Effettivamente, no, effettivamente non è uguale. Su questo mi spiace, ma c'ha ragione, poverino. Vai, Claudio, su. Tutta la fatica che ha fatto. Poi volevo dirti un'altra cosa, Cruciani. Io ti stimo, però tante volte secondo me sei una persona senza coglioni sotto. Sì, ma di che parli? Quando ti ho sentito, adesso fammi finire che poi te lo dico. Un 5-10 minuti fa ti sei preso la briga di prendere per il culo una religione. Che bene, fatto, vediamo scusa, se hai che coglioni di prendere, cioè hai preso per il culo la religione con per quella, la storia con quella, bravissimo, vediamo se hai il coraggio di mettere un'app di qualche mantra o tantra o quel cazzo. Guarda che abbiamo già dato da questo punto di vista, forse sei in ritardo, forse sei un caga sotto, forse sei in ritardo, sei un caga sotto, tu sei un caga sotto. Aspetta contro gli islami, non me ne frega niente, perché a me non me ne importa proprio di quello. Senti, che amico fai, mio, io ho indo... tu sei un caga sotto, va bene. Tu sei veramente un caga sotto. Allora Claudio, Claudio, non li vai a toccare. Claudio, quando è successa, che ti aprano da in cima in Claudio, fondo, quando è successa la vicenda di Charlie Hebdo? No, tu non sei un quando coerente. È successa tu la roba di Charlie? Sotto. Sì, sicuro, quando è successa tu la roba di Charlie Hebdo? Sotto. Quando è successa la roba di Charlie Hebdo, amico mio, ho indossato le magliette, ho fatto l'inferno dalla mattina alla sera, dunque non mi rompere i coglioni, chiaro? Sei un caga sotto. Non mi rompere dentro i coglioni. Ma io ti rompo dici, i coglioni. Dici cose inesistenti. Dici cose inesistenti. Sono esistentissime. Dici cose inesistenti. Quando, sei un caga quando sotto. Succede, piglio per il culo l'Islam sotto. Dalla mattina alla sera. Pigli per il culo. Vabbè, l'Islam. Adesso non è che è obbligatorio ogni giorno. Che prenda per il culo l'Islam. Vabbè. Vediamo se c'hai i coglioni. Va bene, vai. Vengono vai, vai, vai. Sei un caga bravo, sotto. Bravo. Buonasera. Hai detto, bravo, ti sei sfogato. Vai da adesso a casetta. Da tua moglie, forse hai dei problemi con tua moglie, dunque ti sei sfogato prima, può darsi che tua moglie stasera sia salva, perché lì ogni tanto mi sa che qualche zanzare uakbar, zanzare uakbar, allora andato al bar, allora andato al bar, la zanzara. Cruciani, la prostituzione in Italia è reato e tu ti stai prostituendo con questa storia del deretano. Crucia, credimi, stai intraprendendo un viaggio da cui non si torna mica più indietro, sai. E allora, dato che siete partiti così, via ai WhatsApp che sono arrivati sulla storia dei 200.000. Che naturalmente continua dappertutto questa saga dei 200.000 euro. Come avete sentito fino alle 20, caro Parenzo, non ho proferito parola. Non ho proferito no, parola. Perché ormai non c'è più da dire niente, c'è da fare ormai. Beh, questa per è la tua interpretazione. No, però è... lasciamo parlare gli ascoltatori. Ho raccolto un po' di messaggi che sono arrivati sulla questione del deretano dei 200.000. Se ti piace. Dell'inchiappettamento per 200.000, che ovviamente confermo. Non sono arrivate cose concrete, scritte, anche se qualcuno si è fatto avanti durante il weekend. Via. Comunque tutti questi qua che fanno i fenomeni con Cruciani, se avessero davanti una valigetta con 200.000 euro, si farebbero inculare mentre li contano. Cruciani, la prossima volta, prima di fare lo splendido e fare le tue belle campagne, le tue belle battaglie sulle tue convinzioni, ci penserai due volte. Vai con i 200.000, vai! Cruciani, di là tutta, ti stai cagando sotto. Io sono un agente di Equitalia, Cruciani. Sei nel mirino. Per quei 200.000 euro, fattura, mi raccomando, indicando molto bene l'oggetto della prestazione. Ciao, bello, un bacio. Questo mi ha fatto preoccupare, Questo mi ha fatto preoccupare, il signore agente di Equitalia. Sono già pronti lì a notificare questi soldi. Cruciani, io fossi in te farei attenzione, sai, qualcuno potrebbe anche averli 200.000 euro in contanti. Poi voglio proprio vedere cosa ti inventi. sai, 200.000 euro non è che sono poi tantissimi per qualcuno, non so se mi spiego. Ciao ciao. Crucia, credimi, stai intraprendendo un viaggio da cui non si torna mica più indietro, sai. Siamo qui, Pasquale, Caserta, città di cui abbiamo parlato molto negli ultimi giorni. Vai, con la reggia, Pasquale, dimmi. Salve, salve Cruciani, salve. Niente, io abito a 100 metri dalla reggia. In pratica questa storia dei sindacalisti che si stanno lamentando, i vari dipendenti, questa è una storia vecchia, è una storia... Una vecchia, ma non di 10 anni. Sì, però finché lei. Finché... Sì, non c'è dubbio. Il direttore, quello sì, nuovo, sì, sta facendo un culo così, un mazzo così si sta facendo. Sta facendo bene perché la reggia, dall'anno scorso agli ultimi 15 anni, non è che ha perso. Era diventata tipo una faida, era diventata zingari, neri che vendevano. Ma in che senso? Tutto, scusa, non ho capito. La reggia, grazie a questo direttore, non è che è migliorata, l'hanno pulita. Perché? Che c'entrano gli zingari, i neri? Perché non ho prima, perché lui sta vietando di farli entrare. Lui all'interno, fino a qualche anno fa... Cioè fa anche il poliziotto, dici tu, no? No, non è che, no, ha messo delle regole, che chi sta fuori a guardare non deve fare entrare. Tu dici che c'era gente che ci mangiava pure su questi commerci? Certo, e ci mangiano ancora. E quelli che vivono... Quelli che vivono là dentro sono gente che ha ereditato le case, sì, gente dei nonni che facevano i guardiani. Sì, facevano i guardiani, perché la reggia non è solo il palazzo. Attorno alla reggia esistono le vecchie stalle. Sì. Queste stalle sono state ristrutturate negli anni, ma parliamo prima della guerra. Sì, ma perché, scusa, ma essendo roba nostra alla fine, cioè essendo roba dello Stato, non si capisce perché questi qua non vengono presi a calci nel sedere e buttati fuori. Questi perché che c'è soggio... un sistema, è il sistema. La sovrintendenza, i sindacati, la sovrintendenza. Certo, no, cioè, io non so se i sindacati sono. La politica locale ci mangiano. Ci sono milioni di euro che ci girano attorno. Lo sai che nella reggia c'è l'aeronautica? E sono anni e anni e anni che provano a portarla via da Caserta. All'interno della reggia ci sta tutta un'ala dove ci sta l'aeronautica militare. Beh, magari paga l'affitto al comune. Pagheranno 300 euro al mese per avere mezza reggia. Questo pagheranno. Ma ragazzi, ci sono tante da verificare. Ci tutto sono... da, è tutto sì, da però... fare, ovviamente. Ha ragione l'ascoltatore. I sindacati, la gente che ci lavora dentro, gente che ci mangia sopra, alle 4:30 la reggia è chiusa. Non sì, si sì, può entrare no, nessuno. I sindacati non vogliono che farla crescere perché ci mangiano dietro a questa cosa. Le persone che lavorano là dentro non hanno voglia di fare nulla, devono essere prese a calci nel culo. Il direttore fa bene, fa benissimo. I sindacalisti andrebbero bruciati vivi. Andrebbero Pasquale, adesso stiamo andando verso gli abbruciati. Che vuol dire bruciati vivi? I sindacati hanno rovinato l'Italia da quando vabbè, sono quello nato. Può essere anche vero, ma bruciati hanno vivi. Hanno migliorato qualche situazione degli operai. Perché non vengono a dire quando prendono 300.000 euro all'anno di stipendio contro gli operai che ne prendono 1.300? Chi o prende ne prendono 700 in cassa integrazione? Ma chi prende 300.000? Scusa, amico mio, chi prende 300.000? Perché i capi dei sindacati, CGL, CISL, quelli che sono, non no, prendono 300.000. No, 300.000 no. Non li prende. E quando li prendono? E quando no, guarda, Landini, il capo della FIOM, quanto? Ne prende 2.000 al mese. No, chi? Guarda. Chi prende 2.000 euro? Landini, che è il capo della FIOM, prende tra i 1.800. No, il capo della CGL o della CISL, l'ex capo della CISL prendeva un sacco di soldi, no, dai. L'ex capo della CISL, certo. Ma la Camusso non arriverà a 80.000 euro all'anno. 80.000 euro all'anno, un operaio ci deve lavorare tre anni. No, d'accordo, i ruoli sono diversi, dai. Loro dovrebbero lavorare per gli operai. Dovrebbero lavorare. Va bene, Pasquale, ciao. Celso, Reggio Emilia, vai. Celso. Dimmi. Ciao, senti un po', io volevo parlare della cosa lì, ancora dei fruttariani, di quei coglionazzi del piccione di Cracco. Sì, vai. Vabbè, adesso sto facendo una grigliatina qui con un po' di pollo e tutto, e il mio vicino mi ha regalato un colombaccio. Fammi sentire la roba là che frigge, la roba che frigge. No, ho le patate al cartoccio, nella brace con un pino che ho tagliato un po' di giorni fa e faccio fatica perché è ancora un po' verde e ci mette ancora un po' a fare la brace. E poi ma che fai la brace all'aperto con sto freddo a Reggio Emilia? Come ma fai? Che è freddo? Ma no, si sta da Dio. Io sono di Livigno, sai, ti avevo già chiamato una volta. Qui è... Ma tu dove sei? A Livigno adesso? No, sono a Reggio, mi sembra di essere ai Caraibi. Addirittura? Sì, avevo ascoltato il consiglio di Parenzio perché mi diceva che non lo so, qui a Milano fa freddo da Madonna oggi, cioè, non lo so. Vabbè, Celso, vai, dimmi. E niente, il colombaccio secondo me è molto meglio del piccione. Il colombaccio. Il colombaccio, vabbè, dopo aver ricevuto questa preziosa informazione sul colombaccio, che cosa mi vuoi dire sui vegani? Voglio dirti che questi qui, io quando vado da qualche parte con amici, non è che se uno mangia insalata, verdura, gli dico che deve mangiare la carne, ognuno mangia quel cazzo che vuole, hanno un po' rotto i coglioni. A me è capitato anche di mangiare il delfino, sì, quest'estate. Che fa cagare come carne, lo dico. Ma tutti, si può mangiare qualcuno... il delfino? E tra gli animali per me? No, sì, io non l'ho mai mangiato, non lo so. No, penso di sì, penso si possa mangiare. Capito, non sapevo si potesse, non si potesse, comunque vabbè. Vabbè, allora, a parte dirci che i vegani secondo te hanno rotti i coglioni, cosa ci vuoi dire? Voglio dire e sostenere comunque Cracco e tutti quelli che mangiano i piccioni e tutto, però voglio consigliare il colombaccio che è un po' più selvatico, poi non stai... Vabbè, ci vuoi consigliare il colombaccio, benissimo, grazie Celso, ciao. Francesca da Lecce, vai Francesca, dimmi. Ciao Cruciani. Ciao Francesca, cara, dimmi. Senti, ma io ho sentito di questa storia dei 200.000 euro, no? Quanti anni hai? Io ne ho 30. 30 anni. Vabbè, non hai soldi, per cui è inutile. Non sei uomo, non hai 30 anni, per cui sei però out. Ho un bellissimo strapon che mi ha regalato il mio ragazzo. Perché il mio... Allora, la traduzione per buttate fuori i bambini dalle macchine. Strapon trattasi di un oggetto sessuale che viene utilizzato in particolare dalle donne. In lattice con una specie di finto fallo, va bene, in lattice. Ma che gente, benissimo, è questo? Vabbè, tu non sapevi che cos'era lo strapon? Ma lo so perfettamente, ma che gente è? Sai che io ho fatto un test ultimamente tra persone che dovrebbero essere persone di mondo. Vabbè, sono cose moderne, Parenzo, tu sei indietro. Ma lo da questo conosco punto perfettamente, però che bisogno ha di chiamare e di dire ma adesso che vedremo, adesso vedremo, ma io non lo so, ma adesso vedremo che cosa, perché. Ma poi, ma secondo lei alla radio della Confindustria, peraltro forse la radio Bubù, un'altra, ma alla radio della, dove si parla di economia, di lei. No, veramente chiama, qui non dice, parliamo di economia. Oh, il fidanzato, ma io non lo so, ma che adesso, figura sentiamo ci fa con napoletano, con tutta ma la sentiamo, sentiamo Francesca cosa ci vuole riferire. Francesca, volevo portarvi la mia esperienza di scambista. La tua esperienza di scambista. E anche questo è normale. Cioè, chiama una con mutande di lattice e falli. Lo dice con questa voce non sua dente. C'ha il fidanzato che pratica attività. Ragazzi miei, che mondo è? Ma che roba è? E sembra tutto normale, poi. Ma io... È un mondo libero, è un mondo... Sì, ma va benissimo, per carità. Aspetta, però introduciamo... brava, Francesco, mondo libero. Introduciamo l'intervento di Francesca in questo modo. Ave Maria piena di grazia, no, il Signore è con te. Ma no, ma sei veramente... benedetta tra le donne. Il demonio sei, il demonio sei, il demonio. State zitti, fatemi sentire. No, dai, no, no, no. Finché c'è il rispetto della gente, tu puoi fare quello che vuoi, perché ti devi privare di un piacere, di una gioia? No, ma lei può fare quello che vuole, ma mi stupisce. Ma certo, mi stupisce questa stavi spiegando benissimo, stavi spiegando benissimo, eri perfetta, la filosofia della tua vita, la filosofia, guarda, la filosofia della persona. Anche Maria sarebbe contenta. Maria, che intendi? Adesso lasciamola tranquilla, va. Andiamo su un terreno piuttosto scivoloso. Signora mia, parli delle sue cose, adesso parli di quel che fa lei, su, che già mi pare allora, abbastanza curioso. Ti racconto, abbiamo iniziato questo percorso divertente, questo gioco. Vabbè, tu pratichi lo scambismo, vabbè, d'accordo. Sì. Oltre a questo, che cosa vuoi dire? Adesso non è che possiamo entrare, che cosa fai esattamente? No, non voglio spiegare nel dettaglio. Volevo cioè, coppia su coppia, diciamo. Coppia su coppia. Coppie a due o coppie, tante coppie, feste diverse, insomma. Diverse, insomma. Vabbè, insomma, orge ammucchiate oppure in quattro, insomma, questa è la sostanza, o no? Quattro, in sei, in otto. La gelosia esiste? La gelosia, allora, guarda, io penso che la gelosia minima, sana, sia giusta e legittima, ma più che altro si scatena quella sorta di competizione positiva, sì, con le altre donne. Cioè tu ti senti in competizione durante le performance, ti senti durante in competizione, ti senti in competizione, che rende tutto molto più bello. Parenzo, è un'esperienza che dovresti provare, no, tu. Non in questo mia, periodo, adesso, diciamo, periodo non molto, no, non molto ma adatto. Ma al di là di quel che ognuno perché fa... in questo periodo non può provare. No, Parenzo... Ma quello che mi stupisce è la signora, capito? Perché signora, la signora Francesca ci ha chiamato liberamente in una radio libera, in una trasmissione libera, la più libera di tutte, per dire che lei pratica tranquillamente lo scambismo con il suo ragazzo. Vabbè, è normale. Sì, certo, vabbè. Oltre a questa informazione dovrebbe anche condirla perché esattamente ha cambiato, perché ci vuole comunicare che lei pratica lo scambismo. In questo Parenzo non ha tutti i torti. Cioè, qual è il punto? Qual è l'appiglio? Qual è la notizia? Qual è la cosa? Non c'è. Francesca, dimmi. Un mondo molto più bello. Come, quindi, scusa? Il punto è che se lo facessimo tutti sarebbe un mondo molto più bello. No, invece no, invece no. Questo, in questo sbagli, Francesca. Perché? Questo è interessante, per esempio, come cosa. Dimmi. Perché? Perché in realtà... apriamo una discussione. No, la discussione è questa. Giusto. No, Francesca dice, se tutti quanti praticassimo quello che lei fa, saremmo tutti meglio, sarebbe un mondo migliore. Non è vero, perché a me non piace un mondo appiattito, no? Un mondo appiattito. C'è chi queste cose le fa, c'è chi non le fa, come Parenzo, eccetera. Altre persone che sono interessate ad altro. Non è che per questo si privano di qualche cosa, no? Ecco, bravo, meno cioè, male, su questo, Francesca, bisogna essere chiari, cioè, non è, altrimenti diventi una fondamentalista dello scambismo, come l'ISIS, come i vegani. Cioè, sei, io, a me non piacciono i fondamentalismi, Francesca. Non sarei mai nessuno allo scambio, però... cioè vuoi diventare un'apostola? Consiglierei agli ascoltatori di provarlo, almeno una volta nella vita, con il rispetto e con l'amore verso il proprio compagno, sì. Vedranno che... è un'esperienza fantastica. Ora, si può migliorare, dici, si può migliorare. Augurandosi che il presidente della Confindustria si sia messo in collegamento ora con la sua radio, sente la signora che dice: mi auguro che tutti lo possano provare. E dirà: beh, parleranno di Jobs Act, evidentemente, di come gli imprenditori possono assumere. Dice al suo autista: scusa, mi fai risentire il resto della trasmissione? Va indietro di qualche minuto con un rewind che lui può fare sul podcast della sua macchina, esatto, e scopre che in realtà la signorina in oggetto non parlava di Jobs Act, bensì di scambismo, capito? Dai, chiudiamola qua perché veramente... Ciao Francesca, ciao, ciao. Non si può. E che cos'è? E che è un bell'ambiente? Ambiente di maiali. La Zanzara. You can see the morning, but I can see the light. Parenzo, fai un omaggio ai tuoi amici rom. Chiama il tuo bimbo Romolo, Romeo, Romano. La prossima bimba Romina, capito? Fallo dai, da bravo, ciao. Ma ci vuoi dare l'anticipazione sul nome di questo bambino o no? Cioè, no, no, non è possibile, non posso dartela. Sì. Né a te, né a nessuno di questi altri che ascolta. Perché come tu sai, perché sei persona colta, nella tradizione ebraica... Sì, ma l'hai già detto venerdì questo qua, cioè, ecco, allora tu basta, stai dicendo... No, esistere. Ho capito, un'anticipazione, un iniziale. Non è il gioco della De Filippi o di Fazio... Ma è divertentissimo, è l'iniziale, non è mancanza di rispetto, è l'iniziale. Ma non è il rischio a tutto. Però io lo so, siccome io lo so... Siccome non io lo puoi so, sapere non perché... rivelerò, non rivelerò, non ma rivelerò. Non lo puoi sapere. Lo so. Non lo puoi sapere lo perché so, è stato cambiato... Non mi spingere a dirlo, lo so. Più volte, capito? Non mi spingere a dirlo perché lo so, non no, mi spingere a dirlo. Faresti un reato. No, beh, reato, adesso non esageriamo. No, creerei un po' di disagio, come dire. Sì, sì. Esatto. Però, insomma, non lo dico perché poi no. Non interessa a nessuno, francamente. Francamente, far sapere il nome di mio figlio a Fabrizio da Latina, Stefano da Como, Antonio da Napoli, a Mortaccione da Firenze, ma che c'entra? A Stronzone da Varese, no, a Coglionazzo da Mantova. Francamente, non mi interessa. No, ma perché devi trattare così qui la gente che chiama? No, ecco, che chiama. Sei, ma che no, c'entra? No, no, no, ma hai detto giusto, che chiama, ma, perché ma, invece ma... la platea di chi ascolta è formata, ma non è vero, ma... da bravissime vabbè, persone. Fabrizio da Latina, dai, Fabrizio da Latina. Da operai anche per bene, quelli che chiamano sono bravissimi, Fabrizio da Latina. Quelli che dai chiamano sono particolari. No, ma, no. Ma senza di noi che chiamiamo, chi sarebbe stato parente? No, ma, cioè, ma sì, dai, Fabrizio, vai, dimmi. Avanti. No, io volevo intervenire sul fatto sì, però togli il viva voce, togli l'apparecchio, no, togli non tutto. Nessun, no, no, non c'ho nessun viva voce, c'ho il telefono all'orecchio. Vai, dimmi. No, volevo intervenire sul fatto della religione là che fai sentire la preghiera con quello di Verona che ha telefonato prima, no? Allora? Cioè tu alla fine l'hai chiuso dicendo pure là vai a soddisfare tua moglie pure là e vai a casa quella... dato che mi stava attaccando. Vabbè, ho detto vai a casa, capito, forse sei un po' casa, frustrato moglie, forse sei un po' frustrato ma che ne sai se quello alla moglie stasera ci va a fa... fa un culo che ci va l'ova di Pasqua visto che magari vabbè, Fabrizio adesso non lo so quello che fa con l'ascoltatore con la moglie vabbè, stasera allora, cioè, magari lui chiude così una telefonata con... vabbè, adesso con... stiamo discutendo di come ho chiuso la telefonata, va bene, poi no, vabbè, ma c'è cioè, pure sul suo nastro che fai sentire la religione là del rosario, no? Allora? Ma non mi sembra tanto bene, quello ci aveva pure ragione, perché poi io per culo pure un po' di Islam, no? Dai, fa va bene, Fabrizio, di... ciao, Roberto, Milano, vai, Roberto. Dani, sto seguendo la faccenda dei vegani, di questi decerebrati, animalisti, eccetera. Sì, sì. Allora, mentre stavate parlando dei piccioni, mi è venuto un attacco di libidine per piccioni che non mangiavo da un sacco di tempo. Ma questo... quello che provocano i vegani è esattamente il contrario, capito? È esattamente il contrario. Cioè, la reazione opposta. Questo fondamentalismo porta la gente a mangiare più piccioni, sì, più conigli. Si tornerà al gatto. Si tornerà al gatto. Vedrai che prima o poi, grazie ai vegani, e io non me lo auguro, un gatto. Si tornerà al gatto. Sì, io voglio mangiarmi il gatto come il povero Bigazzi. Però adesso per i piccioni vado dal telefono in salumeria, macelleria, i piccioni a Milano non esistono. È introvabile, dici? Introvabile. E io la mi incassio, ma è possibile che... Adesso guarda, mi hai dato un'idea però, amico mio, mi hai dato un'idea. Aspetta, è finita. Allora dico, vabbè, dove ho mangiato i piccioni favolosi l'ultima volta? Sì. In Umbria. Sì. Allora chiamo una mia amica in Umbria, che sta ancora a ride, gli ho detto, ho bisogno di piccioni. Lei ha trovato i piccioni, ne volevo 6, me ne ha trovati 4... Ho detto bene, tu me li mandi per posta celere, sono partiti stamattina, sì, arrivano domani mattina, mi sono già messo d'accordo con un ristorante che me li farcisce e me li cuoce e me li sbavo. Come l'hai fatti farcire? E farcire senza carne dentro, cioè io non sono bravo a cucinare, comunque è roba di pezzo di verdure, perché così rimangono morbidi, però si seccano, no? Dove l'hai fatti fare? Che ristorante? Te posso dire. Vabbè, e che è il mistero della fede? Che? No, non è il mistero della fede, perché questi sono imbecilli, magari vanno lì e spaccano la vetrina. Ah, no, ma questi non hanno coraggio, ma sono degli imbecilli, non hanno coraggio. No. Dai, Roberto, ciao. Quando sento il traffico divento pazzo. La Zanzara. Allora andiamo ragazzi, Daniele Reggio Calabria, vai Daniele. Ciao ragazzi, buona serata, come vai, va? Dimmi, bene, dimmi, vai. Ascolta, volevo portare l'esempio pure mio, che praticamente è successo solo una volta. Anch'io una volta ho fatto uno scambio di coppia, no scambio di coppia, una cosa a tre. Una cosa io, a tre. Io, mia moglie e un'amica. Sì. Cosa abbastanza, che... abbastanza comune, diciamo, no? Sì, comunissimo. Insomma, mica tanto sì. Comune. No, comunque, c'era molto vino in mezzo, quindi siamo andati avanti. Praticamente non è che queste cose si fanno solo da ubriachi, cioè, no, da ubriachi no, è che vabbè, perdi un attimino un po' di inibizione. Ma non è vero, tutte puttanate queste qua. Ma cioè, non è vero che sono puttanate. Ma vero. Quando mai? Se uno... Soprattutto per le donne è così. Sì, uno si deve ubriacare per fare gli scambi, per andare non con ubriacare, ma per non fare sto le orge ubriacare. E cose di questo tipo. Dai. Ma non sto parlando di ubriacarsi e combinarsi male. No, sto vabbè, Daniele, allora. E praticamente sei fatto che dopo un po' di tempo, dopo che ne so, un mesetto, praticamente mia moglie è andata via con lei. Vabbè, adesso sei stato particolarmente sfigato, amico mio, però. Ma non così, Ma tanto. Ma dai, Daniele, adesso stai raccontando una frottola, non è possibile. No, non sto, non te lo giuro, ma non scherzo. Cioè, proprio, non è che tu hai fatto un'esperienza di sesso a tre, diciamo, tu, tua esatto. Moglie, insieme ad un'amica, probabilmente, no? Perfetto. Non credo perfetto. Che sia una prostituta pagata, immagino, no? No, assolutamente. Anzi, un'amica che frequentava perennemente casa nostra. Forse quello è il problema. Anche. Perché mi è venuto il dubbio, sono stato io il coglione e non capito niente. E dopo un po' tua moglie ti ha lasciato per questa. Sì, ma lasciate andare via. Non mi pare che sei particolarmente affranto, Daniele, però, cioè, non sei in lutto. Non me ne fa un cazzo, figurati, se questa è la sua scelta di vita, va bene così. E le due che fanno adesso, vivono insieme? Prendete tutto sportivamente, benissimo. Sì, vivono insieme, assolutamente. Bene, ma poi ti ripeto, è la loro scelta di vita, va bene così. Ragazzi miei, va tutto bene, va tutto bene, tutto sereno, quella è diventata lesbica, quell'altro stava con quell'altra, quella c'era le mutande di lattice. Ragazzi, va bene, ma sono strano io, non c'è problema, va tutto bene, dai, va tutto benissimo. E si chiamerà un altro che ha lo zio, che fa scambi di coppia col nonno. E Cruciani dirà, ma il mondo è questo, il nonno, il nonnino col catetere, che fa i giochetti erotici col vibratore, è normale, nel vostro mondo è normale, e divertitevi così, fate gli scambi, fate quello che volete ragazzi. Ma scusa, ma non ho capito, ma tu le frequenti ancora queste signore, Daniele? Senti, ascoltami Valenzo, sì. Però dai, non la fare così tragica. Ma non tragica, a me non me ne frega nulla. Perché sono il primo a dire... Benissimo. Sono più a dire che ci ha sofferto per questo. Ha sofferto, lo vedi per il culo. Ha sofferto. Divertitevi, dai. Ragazzi miei. Divertitevi. Allora, Daniele, hai sofferto. Poi. Un'occasione, cioè una tantum che è successo. Non posso dire neanche perché è successo. È successo. E quando hai recuperato da questa tristissima vicenda che ti ha affranto, che ti ha portato insomma, un po' in depressione, dal medico? Non è che ci ho impiegato la vita, però sai come. Perché alla fine sei stato un pochettino nella merdaccia. Poi, sei stato in depressione, poi naturalmente dai medici, no, eccetera, no, in clinica, no? Sei stato in una clinica? No, non lo sapevo. Sei stato ricoverato in clinica, sicuramente. No, ma proprio per niente. Sei stato in analisi, però hai rischiato il suicidio, sicuramente. Sicuramente sei stato sull'orlo del suicidio, stavi per buttare giù dalla finestra. Dillo poveretto, non è così. La cosa buona è che poi ho avuto casa mia, quindi solo, assolutamente solo, ho avuto altre esperienze per i cazzi miei, no? Vabbè, positivo, sì, certo, questo dopo il dramma, sì, certamente. Tutto normale. Ma il dramma lo sto vivendo Parenzo, non io. Ma a me non me ne frega nulla, mica era la mia la moglie, oh ragazzi miei, ma che me ne frega a me? Fate quello che volete con le vostre mogli, ma che mi frega? Allora, il mitologico Alberico Lemme con noi, grande esperto di alimentazione, farmacista. Lemme, buonasera. Buonasera a tutti. Come andiamo, dottore? Lemme. Sempre meglio. Sempre meglio, ma è vero che lei ha fatto dimagrire Briatore? È verissimo, finalmente possiamo dire la verità su Briatore, il grande Flavio. Ecco, vediamo qua. Allora, ma lei è un nutrizionista, allora? Molto di più, sono semplicemente un genio. Possiamo dire questa la userò anch'io quando mi chiamo, dico no, sono semplicemente un genio. Possiamo dire un guru, a me potete dire tutto quello che vuole dire, ma perché te ne dico di tutti i colori? Chi è che osa dirti di tutti i colori? Scusa Alberico, chi è che osa criticarti? Tutti, il mondo intero. Perché tu hai un'idea del dimagrimento, hai un'idea dell'alimentazione. Io chiedo scusa se non conosco il signor Alberico Lemme. Ma come? Lemme. È stato pure ospedale una volta. Ma Parenzo, sì, tu ma non scordi lo tutto, di... dai. Ah, non lo conosci di, come dire, di persona, di persona. Di visu, ah, no, visu. È praticamente il più grande esperto di alimentazione oggi in Italia, vivente. Vabbè, andiamo alla questione di Briatore, Lemme. Cioè... Praticamente Briatore ha perso 16 kg con me. Non ha fatto nessun tipo di intervento. Ma questo qua ce l'ha confermato lui stesso. Tu, diciamo, ce lo confermi ancora una volta, no? È un cadetto perfetto. Un cadetto? Sì, perché la mia è un'accademia, filosofia alimentare. Io insegno alle persone a curarsi con il cibo. Spiegami, ma come ha fatto a dimagrire 16-17 kg? Ha messo qualche cosa, qualche bypass? Cateteri, cose, no? Sondini? No, ha mangiato solo tantissimo. Perché il mio mezzo, più uno mangia, più dimagrisce. Vabbè, però adesso non ci stai a coglionare, però... l'ho visto con la verità. Ecco perché nessuno mi può vedere, perché io dico solo la verità. Però scusami, Lemme, qui ci sta ascoltando tanta gente. Già una volta hai fatto scalpore per un'intervista che hai fatto con noi, meravigliosa, in cui hai detto delle cose anche controcorrente. Che vuol dire esattamente, per esempio Briatore cosa mangiava per dimagrire? Facciamo un attimo la cosa quotidiana di Briatore. Sì. Posso dire quello che ha mangiato ieri? Sì. Sta ancora dimagrendo. Dimmi. Un bel piatto di spaghetti, olio e peperoncino a colazione. Poi? A colazione. Sì, a colazione. Sì. Cioè prima colazione o a colazione? Sì, a colazione. Colazione. Alle 9 di mattina. Quella Briatore. Si chiama prima Briatore. Colazione, sì, allora. Esatto. Una bella costata di manzo. Sì. Ma dove sempre questo? Alla faccia dei vegani, a pranzo? Poi? Sì. A cena ha mangiato asparagi e spinaci. Vabbè, adesso voglio dire, non è che mangia un sacco, ha mangiato la pasta. Si mangia la pasta la mattina, ragazzi. Ti mangi 400 grammi di spaghetti a colazione, poi ti fai una fiorentina da 1,2 kg. Vabbè, ha fatto 1,2 kg di fiorentina a pranzo, Briatore. Cioè, tu stai dicendo che ieri Briatore ha fatto 400 grammi di pasta, sì. Una fiorentina da 1,2 kg e la sera? La sera fa 600 grammi tra asparagi e spinaci. Ha mangiato circa 6.000 calorie. Alcolici? Alcolici niente. Niente, vabbè, alcolici niente. Pane? Neanche vino, un bicchierino neanche di vino, mezzo. Anche vino. Uno, quando fa questo percorso, in prima fase, mangia. Più mangia, più si dimagrisce. È una realtà, è un dato di fatto. Se vi dico cosa fa ingrassare, voi non mi credete. No, quello ma lo sappiamo, ce l'hai detto già una volta. Ripetiamo. Non mi ricordo. Dimmi, Lemme, allora cos'è che fa ingrassare? I pomodori, l'insalata, la verdura, l'aceto, il sale. Tutto quello che ho mangiato a pranzo oggi, praticamente. Quello che non fa ingrassare, che abbassa il colesterolo, sapete così? Non ne posso più. Dimmi, cosa? È l'olio, è il burro, è il grasso. Cioè il grasso non fa ingrassare, diciamo, no? Abbassa anche il colesterolo, fa dimagrire. Vabbè, adesso. E questo è il bello della diretta, ma nessuno mi crede, tutti mi criticano. Cioè, ma te credo, cioè tu dici i grassi. Quindi lo strutto, ad esempio. Lo strutto è ottimo per dimagrire. Vabbè ragazzi, non è possibile. Sto dai. Scherzando, è la verità. Sì, ma ho capito, ma quanto bisogna mangiarne? Poco però, evidentemente. No, a volontà, a sazietà. A volontà. Ma dai, su, Lemme. Ma scusa, ma dovrebbero toglierti qualsiasi patente. Ma è numero uno assoluto. Fermi tutti, pubblicità, poi torna Lemme. Voglio più zanzara e meno pubblicità. State ascoltando un programma offerto da... Vilo, circolatori, elettropompe e sistemi di pressurizzazione. Mostra convegno Rofiera Milano 15-18 marzo. La Zanzara. Luciani, ce l'ho io il metodo per ammazzare i topi. Mischiare il formaggio e il gesso insieme, gesso in polvere, se lo mangiano e poi si ammazzano tra loro. Non ti preoccupare che moriranno tutti. Lavoro in Inghilterra per una multinazionale che produce prodotti per derattizzazione e disinfestazione. Gli ultrasuoni difficilmente risolvono il problema. Quello che spingiamo sono trappole a cattura cruenta, trappole a scatto dove il topo o il ratto vengono schiacciati, o trappole elettroniche dove vengono fritti. Arizzi, sono povero topo di Roma. Si permetti, se proprio devo morire, preferisco via una bella badilata, così in colpo secco e son morto, piuttosto che essere scarnificato, azzannato da un gattaccio. Quindi per favore, fateli cazzi tua, che mi difendo da solo. Parenzo, io ti voglio bene, ma poi di quello che ti pare, lavoro a Venezia da 3 anni e mezzo, ci vado tutti i giorni, non ho visto un gatto. Gli unici 2 gatti che vedo stanno dentro a un negozio da rimani in vetrina. Punto e basta. Ma andi, vedete sti gatti a Venezia? Ah, questo ha una voce straordinaria, innanzitutto. L'ultimo, è vero che a Venezia non c'è un gatto, Parenzo, per cui che dici, che hanno rilasciato i gatti? No, Venezia, per eliminare i topi. Ti ho detto che c'è stato un periodo in cui c'è stato i topi che hanno infestato. Hanno provveduto con i gatti. E hanno provveduto con i gatti, certo, ma questo è risaputo comunque, ragazzi miei, fate quello poi dopo. Allora, mi dicono, Cristina, non dico il cognome, è andata da lui, cioè da Lemme, ha fatto la sua dieta, conferma che funziona. Caro Lemme, qui ho sempre conferme, Io so soltanto una conferma, poi vi dico di più. Priatore, avete visto che fisico che ha? È un giovanetto di 15 anni. Ma allora, però, adesso diciamo, mettiamo i puntini su lei. Qui, ma la sapete qual è il mio motto? Sto in faccia a dire il motto. Il mio motto è: Dio ti ha creato, Lemme ti modella. Beh, questo è stupendo. Dio ti ha creato, Lemme ti modella. Tu sei praticamente il discepolo di Dio. Cioè quello... No, ho il socio, a 49, a lui ha 49, io 51. Cioè, praticamente ti senti superiore a Dio? No, siamo in società. Vabbè, 51%, hai detto 51 e 49. Scusa, nella grande società che è l'uomo, diciamo, che è l'universo, tu sei al 51 e Dio al 49. Esatto. Cioè, perché Dio crea. Perché Dio è umile, Lemme no. Sì, c'è anche questo, c'è anche da dire che tu prosegui nell'opera di Dio, cioè Dio crea e può creare anche male qualche volta, invece tu modelli, dunque non sbagli mai in teoria. Esatto, io sono la perfezione. Però scusami Lemme, allora torniamo a Briatore, si è presentato da te e che ti ha detto, che ti ha chiesto? Mi ha chiesto niente, si è presentato, ha fatto il test perché occorre fare un test di ammissione, sì. Lo ha messo al programma, sì. Io ho dettato le regole e abbiamo iniziato. Avete iniziato. La persona mi chiama ogni 2 giorni e mi dice come si sente, quanto ha perso, dove si trova, sì, pure. Se a Dubai, se a Milano, se a Roma, in Europa, e io le do il menù per 2 giorni. Per e due lui giorni. Ha seguito alla perfezione. Oltre al menù che hai detto prima, dici qualche altra giornata tipo del signor Briatore? Fragole con panna a colazione. Fragole con panna a colazione. Poi? A volontà, panna montata. Sì. Frittata di funghi porcini. Ma tutto a colazione? A pranzo. No, questo a pranzo. Ah, segui, no. Colazione, pranzo e cena. Pesce, spada, cena. Pesce, spada, cena. Allora, fragole con panna a volontà. A volontà. A strafottere, come si dice. Sì, sì, sì, sì, proprio a mangiarne tante. A mangiarne tante. Frittata con funghi porcini a pranzo. Pranzo. E poi a cena una bella... quello che gli è piaciuto di più sono state le fragole con il cetriolo. Che squisito, un abbinamento eccezionale. Le fragole col cetriolo, sempre la mattina oppure a colazione? Sì. Sempre a colazione. Per cui mi pare di capire che c'è la mattina uno più o meno quello che vuole. Più perché o meno. Voi usate il termine colazione in modo sbagliato. Che dico io, uno mangia quello che dico io, non quello che vuole. Scusa, ma quanto si paga questa? Quanto ha pagato? Signor, non si può dire questo. Quanto ha pagato, signor Briatore? Cioè, quanto costa venire da Lemme? Insomma, sei caro o no? Essendo socio di Dio, no, sono. Costa 244 euro al mese. 244 al mese? Non è pochissimo, eh? Beh, no, ma non è manco tanto. Cioè, a Briatore... No, è pochissimo, anche perché faccio un servizio 24 ore su 24 e do i menù tutti i giorni alla persona. Cioè, io seguo la persona per... poco, dai, su, ma di che stiamo a parlare? Scusa, a Briatore hai fatto pagare così poco, 244 al mese? Non c'è differenza tra ricchi e poveri. Lemme, dai, 244, ma scusa, ma quanto guadagni tu? Pochi, non, cioè non sei ricco. Ma non guadagni quasi niente, ci rimetto io. Sì, vabbè, ci rimetti adesso, dai, non fare... Senti una cosa, ma a proposito, tu che sei medico, farmacista, ma l'utero in affitto, che ne pensi dell'utero in affitto? Io di solito la pasta la prendo in prestito. Come la pasta? La passera, la passera, la passera, la prendo in prestito. Io la prendo in prestito, non affitto nulla, io sono contro gli affitti. Sei contro gli affitti, la chiedi in prestito. Beh, ma farsela prestare... Poi gliela ridai, però, diciamo. No, lui dice in prestito gratuito, dici. No, no, in prestito gratuito, punto. Uno me la presta, poi la restituisco, bello come me la date, gliela restituisco, e finisce lì la storia. Ho capito. E invece quindi è contrario praticamente. Posso dire cosa penso. Quindi, genere umano abbiamo il maschio, sì. La femmina purtroppo è così così. Come la femmina purtroppo, scusa? Cioè, perché sai che ne pensano le donne? Ah, lui è sì. Sì, le donne, purtroppo abbiamo le donne, sì. Purtroppo abbiamo le donne, abbiamo anche i così così. Cioè, i gays per te sarebbero i così così? Eh sì, perché loro non sanno se sono maschio o se sono femmine. No, ma loro lo sanno quello che gli piace. Gli piace. Beh, sì. Ma loro hanno un po' le idee confuse, no? Vabbè, adesso non riesco a capire. Adesso. Sono maschio o sono femmina. Vabbè, ho capito, ma che ce frega, dai, su. E questo è medico, sarebbe. No, medico, farmacista. Sì, sì, ma cioè, sono un po' malati secondo te? No, non sono malati, è un discorso ormonale. Discorso ormonale, cioè un po' comunque qualche disturbo ce l'hanno, dici? No, disturbo, è un discorso, è uno squilibrio ormonale, squilibrio fisiologico ormonale. Squilibrio ormonale. Nessuna malattia. Squilibrio ormonale, vabbè, ma ho capito, ma ci sono anche quelli che non hanno nessuno squilibrio ormonale, semplicemente a qualche donna gli piace la figa, a qualche uomo gli piace il pisello, ecco. Molto semplice, no? Sì, certo, anche, ci sono anche quelle. Ci sono, comunque tu li chiami, com'è che li chiami? Così così. I così così. I così così. Senti, caro Lemme, ma un'ultima cosa voglio chiederti, i vegani sostengono che di scopare meglio, cioè di fare meglio all'amore, è vero o no? Io ogni ospite che ha un più o meno può essere interessato a queste cose glielo chiedo, secondo te è vero o no? E non ho mai avuto vegano, mi sono mai fatto un vegano, quindi non lo so. Vabbè, d'accordo, d'accordo, ma secondo te è possibile che con la dieta vegana uno abbia prestazioni migliori? No, non è possibile. Non è possibile. E i vegani come li consideri? Dei pazzi scatenati? Come no, li io faccio anche il percorso vegano, vegetariano e onnivoro. Ma tu fai tutto, basta che te pagano, cioè, che te frega. Ciao Lemme, ciao amico, ciao. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Marco, provincia di Rieti, vai Marco. Ciao Cruciani. Dimmi. Volevo, però non mi prendete per il culo, ma mi sembra a volte, sentendo la vostra trasmissione, sì. Rimango imbarazzato, perché dico, è possibile che questi neanche Radio 24 sentano? Ma dipende su che cosa, dimmi. No, molte notizie, molte informazioni, sì, che arrivano. Sì. Anche a Radio 24, sì. sono chiare. Per esempio, la solita Reggio di Caserta, sì, è stato un argomento che ha trattato, mi sembra, Spezia. Poi non lo so, ma non è che io seguo tutto, No, aspetta, fammi finire. Allora... In cui spiegavano, e anche sui giornali apparso, sì, allora, per esempio, spiegavano... la storia dell'aeronautica è bella che è finita, l'ha risolta questo direttore. Ma quello lo diceva l'ascoltatore, io, ma che ne so io? Sì, cioè... però diteglielo. Ma che me ne frega a me, cioè, allora? No, per dire che uno è aggiornato, sono aggiornato io che... E sei aggiornato, lavoro, tu, benissimo, infatti... Un po' di radio, un po' di televisione, infatti sei qui... voi che fate un programma... Ma noi non dobbiamo... più aggiornati di me, e dico, no. Cazzo, ma questi si sottinizzassero su forse, Radio 24... Marco, forse non hai capito ancora, cioè questa non è che sia la spiegazione su ogni cosa. Un ascoltatore interviene, dice una cosa... Lo so. Punto e basta, non lo so. Un sacco di cose da seguire. La questione dell'aeronautica, se è risolta o no a Caserta. Ma che cazzo me ne frega a me se è risolta la questione dell'aeronautica dentro. No, però sono notizie che si leggono sui giornali. Va bene, sarà risolta. Questo direttore l'ha risolta, benissimo, bravo. Mi stai dicendo, mi stai ricordando una cosa, te ne sono grato. La questione dell'aeronautica, cioè della. Che era un magazzino, l'affitto. Bene, è stata risolta da questo direttore. Bene, ne siamo contenti. Poi. Poi basta, ma non è la prima volta che rimango stupito, dico, ma cazzo, ma queste sono cose che si sanno, lo so pure io che sono un po' un ignorante, com'è possibile che... Ma fammi un altro esempio. Che stanno sul pezzo, non fammi un altro esempio. Ma fammi un altro esempio. Dio mio, un po' di tempo fa volevo anche intervenire sulla faccenda dei rom, per esempio, no? Che c'era un dibattito... Guido Ceronetti, lo conosce il tuo amico Lorenzo? Sì. Credo di sì. Sì, no? Anch'io lo conosco. Allora? C'è stato un articolo molto bello sulla stampa di Guido Ceronetti che spiegava la cultura e sì, certo. La storia della cultura dei Rom. Vabbè, allora... Ma certo, questo conosco benissimo io. E dunque... allora non è mai stato citato. Ma che c'entra questo con non sapere? No, che c'entra questo con sapere una cosa o non saperla? Non è una questione di razzismo. Ma la cultura ha Vabbè. Una storia. Ciao amico mio, ti abbraccio, ciao. Alessandro, Milano. Ragazzi, io volevo soltanto ringraziare Lemme, ma è già andato via praticamente. Io posso soltanto dirvi che è tutto vero ciò che fa. Cioè, tu quanto hai perso con Lemme? No, non l'ho perso io, la moglie. Io ho soltanto pagato e ho dovuto cambiare un guardaroba intero della moglie, praticamente. Tua moglie quanto era quanto pesava tua moglie? Ma guarda, come peso non te lo so dire, perché sai, le donne sono molto... Però era una 44, oggi è una 27. Per farti capire come taglia. Ammazza. E parliamo di 10 anni, oggi segue ancora, diciamo, la sua cura di base, quello che è stato. Oggi i suoi seminari purtroppo economicamente non li posso più seguire, però ci sono anche dei seminari che fa. Però ti dico, la cosa che più mi ha veramente tirato fuori dall'orgoglio di volerlo ringraziare, abbiamo mandato una carissima amica che era veramente in uno stato psicologico abbattuta a livello di anoressia, a livello di onirissia, diciamo. Questa ragazza qua l'ha ripresa per i capelli e l'ha rimessa in pista. Vabbè. Una bellissima ragazza, lui l'ha rimessa in pista, credimi. Va bene, Alessandro. Ciao. Ciao. Davide, ciao. Ravenna, dai, Davide. Luciani, dimmi. Ciao, Parenzo, buonasera, ciao. Niente, ciao, fondamentalmente volevo dire, diciamo, ci sono sempre state poi le ragazze comunque che andavano con altri, scambi di coppie comunque un po'... Vabbè, allora... Molto probabilmente non gli si dava mai voce, giustamente voi date voce a queste persone. Vabbè, adesso non c'erano, negli ultimi 10 anni c'è stata anche un'esplosione di queste cose grazie a internet, non è come prima. Ok, ma l'unica differenza è che una volta si chiamavano diversamente, coccolette. Che vuol dire si chiamavano zoccolette? Ma questo qua è il modo in cui le chiami te, perché hai perché un uomo che va con le donne non viene chiamato in un certo modo, mentre tu chiami le donne in questo modo qui. Ma come no? Certo. Dico solo che una volta venivano magari identificate con questo tipo di nome. Aspetta un attimo. Pronto? Flavia. Chi è? Sono Giuseppe, ciao, Cruciani. Giuseppe Cruciani. Sì, un secondo. Chi è Flavia? Sì, Flavia Vento. Sai che Flavia? Ancora. Non sai che Flavia? Scusate. Flavia, ciao, come stai? Ma con chi parla? Bene. Ciao, ciao. Una mia amica. No, una sua amica. Senti, ho letto di questa storia che tu sei stata, non so se fidanzato, conoscevi uno di questi due criminali assassini che hanno massacrato questo ragazzo, ma è vero? Sì, sì, è vero. Ma com'è? Che ci ma racconti? Che gente è? Che persona era? Era, che persona Marco è? Era una persona per benissimo, una persona carinissima, organizza eventi a Roma, fa il PR. Lo so, ma sei sconvolta da questa cosa? Ma certo che sono sconvolta. Che ne so, cioè qua leggo, pieno di cocaina, ammazzano un festino, ma era omosessuale, no? Ma se era omosessuale o no, io non lo so, era un mio amico. Ma che stava? Stava dormendo? No, adesso casa? No, stava con l'amica a casa, stava con sua amica a casa. No, sono con la mia amica, dimmi. No, sembra stordita, per quello dico, sembra quasi addormentata. No, che stordita, ma l'avranno chiamata in 40.000 oggi o no? Sì, mi hanno chiamato, ti ripeto, questa persona è una persona carina, un mio amico, organizza eventi a Roma, sono andata a vari eventi suoi e mai posso immaginare una cosa del genere. Ma siete stati insieme, no? No, siamo frequentati un mese, 2 anni fa, vabbè. Siamo dati un bacio, mi piaceva un bel ragazzo, ma... Sì, sì, sì, si vede, ma cioè non si poteva, potevi immaginare qualcosa, che ne so, se drogava, era cocaina, cioè sapevi, no, niente. No, niente. Un ragazzo tranquillo, io pulito, sono vabbè. Suoi eventi, alle sue feste, che organizzava. Tutto normale, tutto tranquillo. Sì. Vabbè, è per forza, che ti deve dire? Che... No, che ne so, appunto. Hai avvertito qualche stranezza qualche volta? No, mai, tutto a posto. Vabbè, ti abbraccio, dai, forza. Ciao, amica mia, ciao. Saluti, arrivederci. Flavia Vento, si chiama Flavia Vento, che conosceva uno dei due che ha ammazzato il ragazzo. Una testimonianza fondamentale. Beh, andiamo avanti. No, abbiamo finito, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Basta, vaffanculo. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Gesù mio, perdona le nostre colpe. Amen. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, lo so, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Sul palco, come nella vita, sex, zanzara e rock and roll. Radio 24. La passione si sente.